I pidocchi? No, non l'ho mai avuti. Ne conosco uno però di pidocchio. Ci sei tu, Parenzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Quando c'era Berlusconi in Italia, le ragazze, sai, cantavano così. Si viveva di sondaggi, le first lady erano ostaggi del suo humor, del suo fascino latin. Quando c'era Berlusconi in Italia, i ministri, sai, cadevano così. Buonasera a te e tutti i radioascoltatori. La fiducia per un voto, e ai processi vado solo a lunedì. E la magistratura, se lo dico d'amico, fatteli cazzi tuoi. Beh, intanto Berlusconi, caro Parenzo, per non sapere né leggere né scrivere, si è autosospeso dalla Federazione dei Cavalieri. Cioè, in sostanza, cosa è successo? Non si potrà più chiamarlo Cavaliere. Cavaliere. Beh, per noi rimarrà sempre il Cav. Però, ma sì, noi ce ne fottiamo di queste quisquiglie, di queste formalità. Sarà sempre il Cavaliere. Che ne dicono questi qua della Federazione dei Cavalieri? Beh, questi qua. Dei, sì, questi qua, insomma, personaggi. Personaggio, no, non all'altezza del Berlusca, diciamo, no, ecco, non all'altezza del Berlusca, almeno in quanto a reati, almeno in quanto a reati, ecco, almeno in quanto a reati, certo. Comunque la questione è grave, eh. Formalmente non è più cavaliere, si è autosospeso. Ma perché è grave? Qualcuno lo vuole cacciare. Ma qualcuno, cioè nello statuto, ma che statuto, ho analizzato, dai, tutto su, il giorno, lo statuto, che vorrei, dai, leggerti, vorrei leggerti tutto lo statuto. No, allora, della Federazione Cavalieri del Lavoro. Allora? Nello statuto è previsto che se tu hai commesso dei reati, sì, con sentenza passata in giudicato, ti viene tolto il, vabbè, titolo. Il mitologico Conte Marzotto, anti-berlusconiano di ferro, lo vorrebbe depennare. Conte, sì, Conte, forse. Conte. Lo vorrebbe depennare direttamente dai cavalieri, perché condannato, evasore, là, frodatore fiscale, eccetera eccetera. Vabbè. Senti la Biancofiore, Napolitano ha dato la grazia persino a Graziano Messina. Lui, lei dice Messina, ma in realtà Messina si chiama. Però, insomma, lei dice Messina. Messina è una città. Non lo sa la signora Whiteflower? No. No, sul caso di questo processo, sì, certo. Terroristi, spargimento di sangue, ha dato la grazia il Presidente della Repubblica ad un bandito come Graziano Messina. Sarebbe un bellissimo gesto da parte del Presidente della Repubblica Napolitano, anzi è un'invocazione in un certo senso, che motu proprio chiudesse veramente questi vent'anni. No. Allora, vorrei dire che va molto bene, proprio, va, però è Graziano Messina, signor Biancofiore, capito? Sì, ma anche motu proprio. Vabbè, motu proprio è che di sua iniziativa, sì, diciamo, no? Chiaro, per far capire, signor, sì, Biancofiore, però è, sì, è Messina, non Messina. Messina è una città. Vabbè, comunque. Scende in campo per l'agibilità politica di Berlusconi, per la candidatura di Berlusconi ormai tramontata. Io ho una mia idea, un mio suggerimento ai consiglieri politici, ce n'ha tanti, Berlusconi, forse due, le due signore Pascale Rossi, forse anche Toti, l'amico Toti, ma insomma ho un suggerimento: candidare 5 Berlusconi diversi in ogni circoscrizione. Un'idea buona. No, guarda, è un'idea ottima questa qua, 5 Berlusconi diversi. Barbara Berlusconi, Eleonora Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi, Luna Berlusconi. Chi è che resta? Barbara? Sì, forse. Barbara. O Marina, insomma, quello che è. 5 Berlusconi diversi. Rotondi dice il governo. C'è gover... anche Luigi volendo. Sì, sì, Luigi. Luigi. Allora, ripetiamo. Luigi, Barbara, Eleonora, Pier Silvio e Luna. Dai, e siamo, esatto, a 5. Governo ombra di Rotondi lavorerà. Il governo ombra di ma Rotondi. Nessuno si è accorto del governo shadow. Ma... guarda, non mi fare, fammi tenere la lingua un po', sì, frenata, sì, per adesso, sì, per adesso. Il governo ombra che io ho promosso nei prossimi giorni produrrà una ipotesi di restituire almeno agibilità politica al presidente Berlusconi. E la teledittatura andava che piaceva. Galan non se ne fa una ragione, candiderei Berlusconi lo stesso. come si fa tecnicamente? Cioè, per poi farselo bocciare per quel percorso? No, ma non si può proprio neanche. Sì, si può. In realtà non può nemmeno votare, lo sai, no, che per due anni non può votare. Beh, certo, ha perso il diritto di voto. Però questa è una vergogna che non può, essere... che non può votare Berlusconi. Questa è un po' una vergogna. È una condanna. Ma sì, ma dai, ma uno può votare. Vale per chiunque. Ma sì, dai. Ma questo non per la legge Severino, cioè sono due incompatibilità diverse. Non ti mettere a spiegare, ma chi se ne frega? Beh, la gente deve sapere. Ti metti a spiegare. No, ma a spiegare. Sentiamo Galante. Indipendentemente dalla legge Severino. Non me ne frega niente di spiegare alle 18:40, la gente ne ha pieni coglioni. Galan. E poi, se devo dire una cosa, alla fine io lo candiderei lo stesso per Berlusconi, dopo vediamo cosa succede, sarà, ce lo toglieranno, non lo so, ma io intanto le liste questa le farei. È l'anarchia del Veneto. L'anarchia del Veneto che viene fuori. Ma la frase del giorno la faccio sentire pure a Vittorione nostro, Baudo, che è con noi. Vittorio, Vittorio. Eccolo. La frase del giorno è questa, sentila. Pippo Baudo. Io dico, con l'avanzare dell'età, lo dico con grande affetto nei confronti dell'amico Baudo, con l'avanzare dell'età uno dice sempre quello che pensa, diciamo, viene fuori il carattere vero, viene fuori la sostanza, viene fuori la ciccia, l'uomo che dice tutto, dice quello che pensa senza inibizioni, senza freni. E lui dice, la dama bianca, una mignottona. Personaggi che danno degli esempi squallidi, avete letto sui giornali recentemente una ragazza chiamata la dama bianca, una ragazza la quale seguiva politici all'estero, era impiegata addirittura alla regione a Roma. Ebbene, l'hanno beccata a Fiumicino con 25 kg di eroina, questa mignottona. Allora, scusate. Ma allora, ecco. Allora imperava Berlusconi, comandava Berlusconi. Beh, la mignottona, la dama bianca, resta il top assoluto della giornata, il massimo, il top. Quelli della Rai che cercano di frenarlo, no? I conduttori. No, Baudo, che dici? Un attimo. Vittorio? Vittuar? Eccolo. Eccoci qui. Allora? Una mignottona, la dama bianca, tu che l'hai conosciuta bene, una mignottona, dice Baudo. Ma una bella ragazza, florida, molto simile alla Ricciarelli come aspetto. Quindi... Alla Ricciarelli, dici? Sì, per il resto credo che sia l'esempio della correttezza assoluta di Berlusconi. Perché... Cioè? Mentre Renzi ha nominato la Boschi, che è una bella ragazza intelligente, come è bella la Gagliardi, è intelligente anche la Gagliardi, l'ha nominata ministro, quindi l'ha pagata. Sì. È molto bizzarro che un ministro faccia il ministro, non l'aveva fatto mai, che so, l'assessore regionale, l'assessore provinciale, il sindaco. Sì. Quindi la ragione è che è donna, che è bella, che è intelligente, ma soprattutto che è amica di Renzi. Ma amica in che senso, cui... dici? Amica in che senso? Amica. Amicizia è un'amicizia, vale per gli uomini e per le donne, non è questione erotica. L'altra invece non ha avuto la stessa fortuna, che in realtà ha inaugurato il metodo di cui lo stesso Renzi è esemplare interprete, che è quello di nominare ministro, che so, la Carfagna, la Prestigiacomo, cioè figure che erano belle donne sicuramente in quanto donne, che erano intelligenti sicuramente, ma che non avevano nessuna esperienza, e che Berlusconi, quindi il metodo berlusconiano è stato riprodotto nel caso in cui lui invece si è contenuto e ha fatto una cosa corretta, cioè ha tenuto una donna che gli piaceva, perché cioè la accompagnava, quindi la dama di compagnia, gli rimproverano una cosa che non gli possono riproverare. Se lui l'avesse nominata ministro o sottosegretario, non avrebbe avuto la vita disperata che l'ha portata a questa scelta tragica. Cioè, secondo te, alla fine Berlusconi con la Gagliardi ha fatto un'eccezione rispetto ad altri esempi? Sì, perché occorre una separazione delle carriere. Chi fa la carriera della Troia non può fare la ministra, no? Invece lui ha sempre confuso le carriere. In questo tipo, caso, con chi l'ha confusa le carriere? Con chi l'ha confusa, scusa? Ogni volta che Berlusconi nomina una donna, caso Minetti è emblematico. Minetti però l'ha consigliata. Non è che fosse meglio, perché era Rotondi. La mignotta di prima si chiamava Rotondi, era nel listino. Quindi il problema non sono maschi o femmine, questo il povero Straguadagno lo disse in maniera molto chiara. Il problema è che uno fa politica e arriva a fare il ministro o il presidente della regione sulla base di un'esperienza politica compiuta e matura, non sulla base del fatto che da sei mesi arriva in Parlamento nominata invece che eletta ed amica del premier. Sì. Questo metodo che è il vizio dell'uno e dell'altro, nel caso della povera Gagliardi non l'ha adottato, quindi era una persona che stava una dama di compagnia. Ma che cos'era? Un oggetto sessuale? Che cos'era? Non lo so, questi sono dettagli loro. Ma se tu porti un amico e non ha una carica, l'amicizia è un titolo sufficiente ad andare da qualche parte, visto che tanto il volo di Stato... Ma tu l'hai conosciuta, comunque... sta Gagliardi o no? Lo conosco benissimo, sì, un ragazzo. Ma che faceva? Che ruolo aveva con Berlusconi? Esatto, l'ultimo approdo è stato Tabacci, alleato del centro-sinistra. Poco prima Travagin, Alleanza Democratica, anche lui. No, ma con Berlusconi che rapporto aveva? Diciamola tutta, dai, Vittorio, dai. Ma voi fate sempre queste domande che sono quelle che mi fanno incazzare, ma che te ne frega te? Ma come che me ne frega? Avevano? Era una ragazza che piaceva, come può piacere un maschio. Se tu vai... Tu sei invitato da un emiro e ti porti Parenzo, te lo porti perché è tuo amico, no? Sì, anche questo l'amicizia è vero. Io voglio dire, la legittimazione dell'amicizia non ha bisogno di essere dimostrata. Lui non le ha attribuito alcun incarico, non le ha fatto fare nulla. Beh, l'ha portata con sé, l'ha portata. Che lo potete portare in giro è il minimo, no? Non può portarla in giro, perché non deve portarla in giro. Lui non può portare in giro la moglie... Ma non può portare in giro un'amica, ma perché? Beh, su questo perché ha ragione, la moglie è più fidovata dell'amica. Vabbè, ma dai, ma cioè, uno... no, Vittorio dice che su questo ha ragione, dice, la relazione può essere relazione di letto, può essere relazione amicale, sì, può essere sia. Qualunque sia la relazione, il fatto è che viene premiato uno perché è in relazione con te, questo è un altro discorso. Ma in questo caso lui dice della Federica Gagliardi non c'è stato alcun premio, era semplicemente un, come dire, un buono viaggio, un premio, un viaggio premio, che è quello che quando tu, chiunque di noi vada in giro e abbia la possibilità di portare un ospite, capita, la moglie per prima, la porta, e perché la moglie deve andare? Perché scusa, perché la moglie di Renzi doveva andare in a Parigi? Vabbè, ma quella è la moglie, è la premier dame, come si dice? La compagna non è come la moglie, coglioni, non è la stessa cosa. Ma che quella non è la compagna, ma quella non è una compagna. La compagna di un uomo libero può fare quello che vuole. Ma non è così, dai, non si può. L'importante è che non venga messa in lista la moglie di Renzi, però che non venga nominata ministra, e siccome non è stata nominata ministra, ha avuto la vita disperata che l'ha portata a questa. Cioè, lei dice rispetto, lei non è niente, lei dice non è niente, tu dici non è niente di peggio rispetto alla Carfagna ad altre. Cioè, non so se sia meglio o peggio, dico, mentre nel caso di queste due che hanno fatto poi la legge per cui è stato condannato, la famosa legge sulla produzione di Noire, che non era in vigore quando non fu condannato Pasolini, cosa che dico sempre, quindi queste due gli hanno anche fatto un tranello micidiale, questa qui non aveva nessun incarico, nessun ruolo, nessuno stipendio, nulla, era una accompagnatrice come uno si fa accompagnare dal suo amico, dal suo cugino. Se uno è omosessuale si fa accompagnare da un suo amico, tu cosa vai a dire? Lo fanno, non lo fanno, ma che te ne frega te? Mica no, te ne vabbè, ma io sono un impiccione, allora, lo sai. Che cosa faceva in quel viaggio? Faceva la portacarte. Faceva la, beh, la porta di notte qualcos'altro, di notte qualcos'altro si faceva, dai, su, Vittorio. Ma se anche si faceva non è un fatto che riguarda nessuno. Vabbè, sì, d'accordo, dipende uno che ruolo ha. Se uno si inventa un ruolo, se uno si inventa un ruolo per portarsi dietro qualche amante. Io sto rispondendo a te e a Baudo. Quello che dice Baudo è una illazione. In realtà questa volta... Cioè sarebbe da querelare, Baudo, sarebbe da querelare, tu dici, sarebbe da... No, ma chi se ne frega delle querele? Sto dicendo che è l'unica volta in cui Berlusconi si è comportato in maniera corretta. Sì, ha portato con sé una donna, o in quanto amica, senza attribuirle degli incarichi che potessero, se potessero, perché qual è la vera corruzione di Berlusconi? Andare a letto con una ragazza, in ipotesi, dopodiché lasciarla e farla diventare parlamentare. Sì. Io sono costretto a pagare lo stipendio a una che lui non può più mantenere, o non vuole mantenere, manda in Parlamento. Questo è l'unico termine giudiziario su cui lavorare. Vero, giusto. Se giusto. Uno vuole aprire un'inchiesta. Giusto, giusto. Su questo ha ragione. L'unico problema qui è che di mezzo c'è la cocaina. Non c'è Rubi, non c'è niente. Quante ce ne sono così, secondo te, non di so, questi esempi qua? Certo, cioè se io faccio pagare lo stipendio e la pensione a una che scarico sullo Stato, quello sarebbe materia su cui aprire un'inchiesta, che è De Gregorio, il cazzo di De Gregorio, che si era già dato ampiamente al centro-destra. Un attimo solo, diventare... Vittorio, torno subito, traffico. Torno a una condizione. La prossima volta... Cattivi, Beh, che nostalgia di questo Berlusca. Adesso, caro Vittorio, si arrabatta tra... Hai visto che sembra prigioniero della Pascale e di Maria Rosaria Rossi? Ma è vero quello che si legge sui giornali? Tu che fino a poco tempo fa... Certo, era una cosa che stava avvenendo quando io lo frequentavo e poi è venuta completamente. Il prigioniero di due donne e di un cane. Naturalmente impediscono, una volta io andai a trovarlo ad Arcore ed ero con persone come te, dico guarda, ti faccio vedere il Bunga Bunga, che tecnicamente una stanza, una specie di tavernetta, del tutto innocente, con delle belle sculture di Alba Gonzales, e faccio per scendere la scala, le due mi hanno, ma tu non puoi portare Cruciani in quel luogo, che è il luogo del peccato, è il luogo, due pazze, cioè due che avevano paura del luogo fisico perché evocava il male da cui loro cercavano di sottrarlo. quando telefonavano alcune di quelle ragazze, c'erano le note con i nomi, no? Chiama, non so, Caterina, non so che. Sì. Vicino c'era il commento della Pascale, brutta puttana, vera troia. Cioè, una cosa da pazzi. Alla fine l'hanno messo nell'angolo, lui si è cascato. E buonanotte, è tornato ad essere da quello che era visitato, come io gli ho suggerito nei tempi belli, occupato da una donna. Tra l'altro la seconda, non so se faccia apposta perché proprio sia inevitabile, è identica a quel Paolini. Sai che Paolini, tu quando vedi Berlusconi c'è dietro una con gli occhi a palla che la meglio dell'aria rossa, identica a Paolini, uguale. Ma come fa Paolini? Ma uguale a Paolini, quello, il pedofilo. È identico. Come si chiamava? Non Gregorio Paolini. No, Gregorio era un autore televisivo. Si chiamava Paolini. Vabbè, non mi ricordo, non mi ricordo adesso. Sì, il profeta del condom. Ogni volta era dietro, no, lei è identica, non c'è passaggio, tu non puoi vedere Berlusconi che non sia dietro impallato. Da una che sta ma guardando. Tu l'hai conosciuta sta Maria Rosa Rossi, sta badante? No, la conosco a memoria. Come beh, che personaggio è? Una segretaria che è diventata naturalmente deputato. Ci risultano degli atti parlamentari rilevanti? No, 98% di assenza. La segretaria da solo, Berlusconi, sì, la fa pagare allo Stato. Ecco un altro termine di ipotetico reato. Cioè, questa è una vergogna, secondo te? Una vergogna? Non è una vergogna. Questo è un, se fosse un PM, sarei molto attento a valutare dove esiste il vero elemento. Cioè, una che sta, non va mai in Parlamento, lavora solo per Berlusconi e la paga lo Stato, pone un problema, se mai questo problema può essere posto. Quindi è la sua segretaria, bravissima, ha preso il posto di Marinella, che sì, dicono aver allontanato, sì, e probabilmente è utilissima per stabilire chi vuole, chi deve parlargli, che quindi da questo punto di vista sarà sì, però, capace. Però perché la dobbiamo pagare noi, dici tu? Perché al Senato? Questo è il dato generale che riguarda molte di quelle persone. Quando io avevo bisogno di andare, per esempio, ospite suo sì, da qualche parte, sì, tipo andare a Villa Certosa, sì, anche senza di lui, con chi parlavo? Con lei. I miei parlavano con lei, che diceva sì. Ma insieme che coppia fanno? Una coppia mortale per Berlusconi, tutte e due insieme, queste due? Sono delle ragazze, una innamorata o come dire legata sentimentalmente, l'altra utile, e quindi vanno benissimo. Però dico, certo, questo lo mette nella situazione di cui parlano i giornali, di isolamento. Se poi vuole essere isolato, può anche darsi che abbia una fase mistica. Non sono d'accordo su un passaggio che non riguarda, su loro due abbiamo detto già abbastanza. Il riferimento a Paolini è perfetto per dire che lei non lo molla e si fa vedere senza esistere, cioè non ha un'esistenza propria. No, è l'esistenza di una che assiste qualcuno e che può essere per lui utilissima. Quindi non esiste materia di discussione che lui si fidi di lei. Ma queste voci sulla Pascale che riguardano... La Pascale è un fatto sentimentale, lei evidentemente ha pensato che innamorata di un uomo, le cui spoglie di potere anche in questa situazione sono una ragione di fascino. Tu pensi che quando eravamo in Parlamento l'amico del Noce era innamorato della Pivetti perché era presidente della Camera, così Beniamino Placido e così Scalfari, cioè il potere è erotico. Sì. Quindi questo è, ma questo mi volevo dire un'altra cosa, rispondere a qualcuno che era tuo ospite prima, c'è ancora, che per quello che riguarda la candidatura di Berlusconi, Berlusconi è totalmente candidabile, cioè non occorre candidarlo e eleggerlo. Puoi addirittura mettere il nome del sindaco, del simbolo, viene sì, ma quello voto, il nome del simbolo, sì. Nome comunque, certo. Guarda, io do un consiglio a Berlusconi: bisogna candidare 5 Berlusconi diversi, tutta la famiglia Berlusconi candidata testa alla circoscrizione. Senti, ma però, questi qua dell'Arcigay che dicono a Mussolini che adesso vergogna, mezza Italia gode, eccetera, che dici a questi qua dell'Arcigay? Prima di arrivare all'Arcigay, volevo dire che questa cosa qui del nome del simbolo, assolve la questione, perché se io chiedo a te, tu forse lo sai, dove è stato eletto Berlusconi in Parlamento? Non si sa. Qual è il suo Molise. Ecco, appunto, allora, ti pare che uno che poteva essere eletto nel Molise? No, ha scelto il Molise, allora è chiaro che non è un eletto, non è mai stato eletto. No, certo. Quindi la sua natura simbolica presuppone che il voto arrivi a quella lista. Ma devono essere eletti, devono candidarsi come capolista 5 Berlusconi diversi. Sì, ma anche se non sono i parenti, lui c'è comunque il voto che sia detto a lui come persona perché vada e poi non va. Sì. Né in Europa, né in Molise. Vabbè, dai un consiglio alla Mussolini, che deve fare la Mussolini? La Mussolini ha avuto una sola fortuna, che siccome ha difeso Berlusconi per le vicende di Rubi, può tranquillamente difendere anche il marito. Cioè, lei è stata però è una che ci è andata giù pesante su quelli che vanno con i minori, eccetera, eccetera. Perché su Berlusconi è stata totalmente. Cioè, la vicenda di Berlusconi. Ma questi che dicono, questi qua, tipo Luxuria, che dicono, vabbè, ne parliamo dopo che c'ho il giornale radio. Va, 800 24 00 24, la Zanzara vive e lotta insieme a voi. Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. Quando la zanzarita tormenta la mia. mia noce. E volevo vedere te se eri sposato con Alessandra Mussolini, che c'hai una moglie che non gliene fregava niente del sesso se non andavi a mignotti. Ma un marito che va a casa e sente una moglie che dice così, ma se scopa pure la Filippina dei 70 anni. Chiedo perdono alla senatrice Mussolini, ma sono, sono assolutamente irresponsabile per quanto testé avvenuto. Questo iniziativa sociologo solitaria di un meraviglioso tecnico. Un sociologo tecnico della sessualità. Chi è questo sociologo della sessualità? Chi è? No, è un intervento di un ascoltatore di ieri che ricordo, effettivamente mi ha fatto pisciare delle risate. Un sociologo sarà sicuro. Vabbè, ha detto la sua, perché la gente non può dire la sua. No, non siamo anche la trasmissione della gente. La sicurezza. Com'era con cui, come dire, nel dettaglio scientifico dispiegava questa vicenda. È possibile anche della accadere tutto, è possibile tutto alla Zanzara, anche che Razzi dica che se Berlusconi si candidasse al Parlamento europeo ci sarebbe un on plane all'europeo, un ex sì. senti che spettacolare. Non c'è ciccia per nessuno, se si candida lui sarà un exploit di voti. E farà l'on plane di tutti i voti, l'esplave vincerà a tutte e cinque le circoscrizioni tranquillamente, sarà il numero one, il numero uno. L'Europa ha paura di Berlusconi, è un genio. Scusa, hai detto vincerà a tutte e cinque? A tutte o in? No, a tutte e cinque. Ah, ho capito. Ma adesso stai a commentare il linguaggio di Razzi. Non avevo dai, capito. Su. A tutte e cinque. Anche l'Europa incomincia a aver paura, perché sa che se arriva Berlusconi lì è l'unico che può muovere anche l'Europa. È l'unico! Berlusconi è un genio, come l'ho chiamato tante volte, è l'Archimede della politica. È un genio, ha delle idee straordinarie che nessuno se la sognerebbe. Muoverà tutta l'Europa. Ma sicuramente lui muoverà tutta l'Europa e sicuramente riprenderà l'economia italiana e l'economia europea. Con Berlusconi al comando siamo tranquilli tutti, tutta l'Europa riprenderà, ma sicuramente, ma solo che loro hanno paura, apro che hanno paura perché tutti gli altri lì non capiscono un accidente. TG3 titoli, TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Renzi sui tagli, per ora un elenco, poi decideremo dove intervenire. Anacronistico il tetto del 3%, l'IRPEF non televendita, ma speranza. No dei sindacati al piano per la spending review, rischia di penalizzare i più deboli e annullare i benefici fiscali. Bonanni, Renzi, discuta con noi. Confermata l'interdizione, Berlusconi non potrà candidarsi alle europee. L'ex premier si autosospende dal titolo di cavaliere, forse in campo una delle figlie. Alta tensione in Crimea, le forze filorusse assediano basi dell'esercito regolare ucraino e Kiev esce dalla comunità degli stati indipendenti. Ancora nessuna traccia del Boeing scomparso, alcuni testimoni è passato sopra le Maldive, ma non ci sono conferme, sul tavolo tutte le ipotesi. Chiesto l'arresto del deputato del PD genovese coinvolto nello scandalo sui fondi per la formazione professionale a Messina, il PD voteremo sì. E il presidente della Camera Boldrini, il governo renda pubblici gli atti su Ilaria Alpi. Il ministro Mogherini alla madre, massimo impegno per la ricerca della verità. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori. Nuovo exploit dell'amico Buonanno. Adesso... cerca di essere coerente, Davide, con quello che dici, eh? Cerca di essere coerente. Senti che cosa ha fatto oggi alla Camera. C'era Renzi. Sì, non ti tirare indietro. Gli dici Capra, gli dici Somaro. Gli hai detto Somaro, e poi hai chiesto poi, scusa. Perché mi continuava ad interrompere. Poi, però aspetta offeso, un attimo, guarda che cosa scusa, ha fatto. Poi lui mi ha interrotto, gli ho detto Somaro ancora. Senti cosa ha fatto oggi alla Camera, senti. Io lo dirò al Presidente del Consiglio, mi dispiace che se ne vada, perché gli volevo donare un bottone, in quanto nella visita che ha fatto in Germania con la Merkel si è visto in televisione che non è capace di arracciarsi il cappotto per bene. E io ho avuto il dubbio quando ho visto... Colleghi, un attimo, per favore. Ho avuto il dubbio, passando avanti il picchetto... Do... posso andare avanti? Ho avuto il dubbio, passando avanti il picchetto d'onore insieme ad Angela Merkel, che magari la cancelliera si fermasse per aggiustargli il cappottino. Che vuoi dire, Parenzo? Ma che vuoi dire? Ormai lui, cioè, lo sente intervenire su questo, cioè è un comico, è il circo, ma che vuoi dire? Ogni giorno ne tira fuori una, è il colore in faccia, è la ghigliottina, è il forcone, è il vestito da domatore da circo, vestito di bianco, è una sciocchezza al giorno, è lì, per, è lì a fare questo ormai, quel somaro, è un somaro quando fa così, è un somaro, perché prende in giro le istituzioni, fa perdere tempo anche, è lì a far perdere tempo, lì si annoia tutto il giorno, si guarda, dice, ma che facciamo oggi, ma che facciamo, una che ghighina facciamo oggi? Vittorio? Sì, eccolo, eccolo. Eccoci, che mi volevi dire ancora? No, volevo dire la questione Mussolini, una questione ancora di attualità. Beh, sì, certo, oggi ha detto. Oggi ha detto, scusi, in un'intervista a chi? Ha detto: non caccio di casa il padre dei miei figli. Da un certo punto di vista, vuol dire, ha pure un po' di palle, o no? Tutti sono fatti suoi. Però dico, rispetto al reato, suo marito è esattamente come Berlusconi. Cioè? Quindi lei non può non perdonarlo o comprenderlo rispetto a un reato che è nato con la Carfagna e la Presti Giacomo e che prima non era tale. Quindi se ha perdonato Berlusconi è che non può perdonarlo per un'altra ragione, per essere cornuta. Quindi il dato suo reale è da una donna che aveva un marito che credeva fedele ha trovato uno che l'ha cornificata, ma non perché è una minorenne. Il fatto della minorenne lei l'ha superato quando ha giustificato Berlusconi. Non ha mai ritenuto che la condanna per Rubi fosse una condanna seria. Quindi da questo punto di vista lei ha una doppia verità. L'innocenza sostanziale del marito rispetto al reato, che non è corna ma è minorenne, prostituta minorenne, e invece il fatto che per lei il reato è che l'ha fatto cornuta. Questo è l'elemento. Però scusami, ma secondo te il marito lo sapeva che erano minorenni o no? Dai, su, non... Probabilmente sì, probabilmente no, ma sai, no, non c'è una ragazza che, dato di fatto che la minorenne, la prostituta minorenne è il reato inventato con questa legge, ma non esiste ragazza da molti anni nel nome della libertà sessuale. Ma questi 14-15 anni avevano queste qua, però, sì, ma non esiste ragazza che non voglia, non abbia desiderio sessuale e talvolta, anzi quasi sempre, ceda la sua verginità prima dei 18 anni. Quindi il dato è un dato finto. Cioè ha ragione Corsaro, quando dice che sono mignotte e basta, anche se minorenni? Questo è crudele, però la disponibilità sessuale non ha a che fare col pagamento. Quando c'è disponibilità sessuale puoi decidere se farlo gratis. Ho capito, però ci sono dei reati. Il reato è lo sfruttamento, ma quello come era prima. L'errore è stato attribuire un reato all'età. Se una la dà a 17 anni, gratis o per soldi, non c'è nessuna differenza, cioè non è un tema morale. Ho capito, allora cambiamo la legge. Se uno sa la legge, se uno conosce la legge, in particolare un ex della Guardia di Finanza, vai là e gli chiedi la carta d'identità come minimo, a una, o no? Sì, forse. Ma dai, su, uno di questi tempi qui deve andare a chiedere la carta d'identità, altrimenti sei un coglione. Se la paga, se invece non la paga, non no, vabbè, niente. Certo, questo ma anche se non la paghi, passi comunque i guai, potresti passare i guai lo stesso. No, perché le donne possono svolgono dai 14 anni. Vabbè, ma ti può ricattare, no? Soprattutto se sei famoso. Vabbè, allora ti può ricattare anche una maggiorenne. No, ma non è quello un dato, ma credo che e se è una legge fatta male, perché lo sfruttamento della prostituzione è una cosa, ma se una ragazza di 17 anni e mezzo decide di non darla a Cruciani gratis, ma solo a 300 euro a volta, è un problema suo. Il problema è se qualcuno la sfrutta, che è il reato che c'era prima. Sto dicendo questo, no? Non riesco a immaginare che il sesso debba essere una cosa per diciottenni. Il sesso comincia ben prima e va rispettato. E va rispettata la libertà di una ragazza di voler. D'altra parte, il libro. Ho capito, ma queste qua erano libere di fare quello. Scusa, erano libere di fare quello che volevano, secondo te? Erano donne libere, ma ragazze forse, libere di fare sesso 14-15 anni? Fare sesso sicuramente, fare sesso a pagamento bisogna vedere chi le sfruttava ed è che l'ha punito lui. Fare sesso, certo. C'è quel libro famoso della Puglia Lombardi. Mi chiamano principessa, ho 12 anni, vado in discoteca, per ricaricare il telefonino mi vendo. Sì. Ma nessuno la forzava. Libro di sociologia. Cominciamo a ragionare sul fatto che il sesso dei ragazzi non può essere controllato da una norma comunista moralista. Il sesso, quando il ragazzo 17enne l'altro giorno scrive al fatto sono gay, o quell'altro che si chiama su Repubblica, allora che diciamo? Se uno è gay e ci sta, se ci sta gratis va benissimo, se ci sta a pagamento, ma che vuol dire? Il pagamento non cambia la disponibilità. La disponibilità è un fatto psicologico, interiore. Senti, ma qui è diverso, qui c'era un appartamento, c'era il pagamento, il reato è stato cognato. Scusa un attimo, quando Franco Grillini, presidente onorario dell'Arci Gay, dice che la Mussolini è una moralista da quattro soldi, che ha fatto la morale sulle coppie gay, che non si può più permettere di dire quelle cose, che ha goduto per quello che le è successo, è un cretino secondo te? No, ha ragione, ma sicuramente Grillini è stato sicuramente con dei ragazzi di minori, meno di 18 anni, nessuno mi ha detto ma che ne sai adesso, Pasolini ce l'abbiamo o no? Avevano 15 anni, ripetiamo questo, è stato con 3-15 anni i suoi allievi. Vabbè, ho capito, mica Grillini. Vabbè, allora c'è, vuol dire, quindi non parliamo, il problema in esame è solo l'età. Sì, certo. Conto, è l'età che ha stabilito il discrimine. Vabbè, comunque, allora, che cosa ti ha detto? Che ti ha detto Boeri? Che sei un Stefano Boeri, architetto a Milano, là, che ha detto che sei un. Non lo so, io ho letto di lui che ha fatto le cose più brutte del mondo e che è un ignorante e una capra. Quindi lui mi avrà risposto, giustamente, pensando che quello che voleva distruggere il Porto Vecchio di Trieste, quel criminale, e io l'ho vincolato tutto come sottosegretario. Ha fatto i più brutti grattacieli del mondo e deve vergognarsi perché li ha fatti poi essendo assessore con grave conflitto di interessi. Ed è un uomo schifoso e un criminale. Addirittura, Boeri. Ah, no, sì. Ma vai a vedere cosa ha fatto. Gli fa schifo l'ignoranza di Sgarbi, ha detto. Mi fa schifo l'ignoranza di Sgarbi. A me fa schifo quello che ha fatto lui, ma la mia ignoranza è soltanto per le parole che dico contro lui. Lui invece ha distrutto qualcosa per tutti, ha distrutto una tradizione antropologica delle persone che stavano lì, ha fatto i grattacieli più schifosi del mondo solo per soldi. Addirittura, corrotto. Ignorante, certo, ma cosa gli ha fatti? Perché credeva che fosse giusto? Che ne so, magari gli piaceva. Però qualcuno quei progetti li ha votati. Il progetto gliel'ha pagato, no? Però è stato anche assessore. Sì. Io quando ero assessore non ho fatto grattacieli, quindi di me rimangono le cose che ho fatto, le mostre che ho fatto, gli incontri che ho fatto. A noi fa schifo l'ignoranza di Sgarbi, così ha detto. A lui. Ma lui non è che sia ignorante, lui è proprio uno che non sa nulla, non è ignorante, è un uomo pericoloso. Pericoloso, ma vale a vedere queste cose, non le puoi far vedere, sono le cose più brutte del mondo. Va bene, Vittorio, a presto, ci sentiamo presto. Ciao, ciao. Una capra. Ciao, a presto, ciao. Sono Cruciani e Parenzo dalla Zanzara. Ah, per quel cesso di trasmissione. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Buonasera. Dica. Io vorrei parlare di puttane. Si svegliano per me. Quando tu. Oh, c'avevo un brocio 20 minuti fa, l'ho detto la signorina. Passami subito Giuseppe che lo fermo, gli lampeggio e glielo passo. Casa mia. Rottamatore e rottamato di nuovo insieme. Solo in Italia può accadere una cosa di questo tipo. Adesso vanno d'amore e d'accordo. In Italia tutti, più o meno, vanno d'amore e d'accordo. Dai, la sostanza qual è? È che Renzi non vuole farsi nemici. Si potrebbe dire non vuole nemici a sinistra. E D'Alema ha bisogno di Renzi per sperare di essere nominati in Europa, no? Beh, ma non è tutta tattica. Ma però. Sì, su, dai, c'è solo D'Alema tattica. Deve andare in Europa perché è una persona preparata. Vabbè, e ma questo lo dici bene. Tu, questo io lo dici credo. Tu. Come ci sono altre 100.000 certo. persone che non possono fare i commissari europei. 100.000 persone. Beh, sì, ma tra questi. Comunque, sentiamo. D'Alema ha il curriculum. Vabbè, ma tu sei quello che sei, dai. Io sono D'Alema. Ma tu sei quello che sei. D'Alema, io e Renzi della stessa squadra. Questo non è un dibattito, nel senso che siamo d'accordo pressoché su tutto, diciamo, ecco, forse non da questo punto di vista facciamo parte della stessa squadra, non soltanto nel senso che del PSE, ma nel senso di una visione fortemente condivisa, ecco. Una visione condivisa. Fortemente condivisa, Renzi, diciamo. Mandare in Europa le persone più forti. Non ha pronunciato la parola D'Alema, però insomma di quello si tratta. No, poi ha anche detto che non basta scrivere un libro per andare in Europa. Sì, va bene. No. Contestualmente credo che noi dobbiamo mandare in Europa le persone più forti che abbiamo. Mi riferisco in particolar modo ai livelli istituzionali. Ma facciamo risentire quello che dicevano non più tardi di, che ne so, di novembre. Renzi, D'Alema ha già distrutto la sinistra. Senti, D'Alema è animato da una passione sincera. D'Alema dice, pensa che se vinciamo noi distruggiamo la sinistra, ignorando il fatto che l'hanno già distrutta loro la sinistra e che a noi toccherà ricostruirla. Allora, in questo senso. D'Alema, da Renzi nessuna idea, solo insulti nei miei confronti. Trovo che Renzi, che idee nuove ne ha proposte pochissime, diciamo, però non il vero cavallo di battaglia è continuare ad insultare e ad attaccare me, il che mi attribuisce un ruolo molto significativo. Beh, ma non c'era la visione comune, eh? Non c'erano le idee comuni, la visione comune. Fino a pochi mesi fa Renzi non aveva nessuna idea. Questa è veramente la cosa assurda dell'Italia, in cui non c'è, cioè le parole non hanno alcuna importanza. Se tu ascolti quello che diceva Alfano su Berlusconi solo qualche mese fa e quello che dice adesso su Berlusconi, però, cioè, no, è una comica, è una comica. Anche la è Clinton una comica. E Obama si sfidarono all'ultimo sangue. Ma non c'entra niente, dai, non dire stupida, della... nessuno ha mai detto cose no, del genere. No, e poi appartenevano Lamberto da Luca, mi fai ascoltare però. Lamberto da Luca? Sì, per favore, Lamberto da Luca. Tutto così, come Lamberto pronto. Da Luca, è arrivato adesso quello riflessivo. No, Lamberto da Luca, dai. Mamma mia. Renzo, abbia pazienza un minuto, poi gli risponde. Perché è un quarto d'ora che ho il telefono in mano e mi sei anchilosato il braccio. Vai, vai, Lamberto, vai. Cruciano, Cruciani. Una superficialità che mi fai andare fuori di testa. Può darsi. Accendo la radio e v'ascolto. Caro professore, cazzo, dimmi la tua, caro professore, caro approfonditore, non caro, sono professore, caro analista, mi dimmi tu. Mi fa incazzare quando si parla di elezioni e Berlusconi lo può votare, può essere eletto. Ma chi l'ha detto? L'hai detto te. Io l'ho detto, ma quando mai? Commentando ho quello che ha detto un Berlusconi. Ho detto un Berlusconi. Hai capito? Vabbè, perché senti, se Lamberto. Il telefono, mi garba solo ascoltare. Adesso ti faccio una bella punturina, No. Però te hai il potere di farmi incazzare. Caro Lamberto, adesso ti faccio fare una bella punturina da qualcuno, però, Io non ho mai detto che. Sì, figurati, io quando sbotto, poi dopo mi calmo. Dopo ti riascolto tranquillamente. Io però non ho capito, Lamberto. Una persona che affronta certi argomenti in maniera superficiale. Ma cosa? Cosa? Ma cosa? Quello che hai detto sulle elezioni. Ma cosa? Di spiegami cosa. Hai detto che Berlusconi e poi anche non farlo votare o non farlo candidare. Questo prevede la legge. Ma Berlusconi sì, ma nessuno ha detto al contrario. Due giorni di cappello per lui che ha saputo difendersi, ma lui non si candida e lui non può essere votato. Ma chi ha detto il contrario? E è due giorni che tutti quelli del centrodestra. Ma è due giorni che non lo fa. Che fanno quelli del centrodestra? Sì. Si masturbino. E che vuol dire si masturbino? Scusa. Tanto per dirti una stronzata, visto che te ne dici tante. No, ma guardi, allora, caro Lamberto, una cosa molto semplice, molto molto semplice. Io non ho mai detto che Berlusconi si può candidare, anzi, secondo me Berlusconi non si candiderà. Dopodiché me ne frego, più Berlusconi ci sono in lista, più ci divertiamo. Ho proposto un'altra cosa, 5 Berlusconi in lista, ma non Silvio Berlusconi, Pier Silvio, Marina, Barbara, Luna Berlusconi, Eleonora. Paolo Berlusconi, Eleonora Berlusconi, più di 5, 6, 7 Berlusconi in lista. Così uno è contento, c'è il nome Berlusconi e le persone sanno chi votare. Questo è il punto, capito? Sì o no? Vabbè, non ha capito. No, assolutamente no. Io sono stupido, non ho capito quello che dici. A pari tuo, che non hai capito che è 25 anni, che dici le parole non contano. E infatti ci siamo sorbiti una classe di politici da destra a sinistra che non valgono un cazzo, perché le parole non contano. Va bene, Lamberto, grazie. Gaetano da Berlino, grazie. Un attimo. Pronto, chi è? Sì, casa Berlusconi? Sì. Il signor Aldo, per favore. Non c'è, grazie, arrivederci. Gaetano da Berlino, buonasera. Da caro Berlino. Giuseppe, caro Parenzo, buonasera. Da sì. Berlino? Gaetano da Berlino, sì. Dica veloce. Sì, sono il famoso Gaetano che a volte ti messaggia, Cruciani. Vabbè, stai? Gaetano, vai, bene, dimmi. Allora, io chiamo per supportare al 100% la tua tesi riguardo il licenziamento dei pubblici, degli statali. Io sono un ex statale, Giuseppe, appartenuto per 15 anni in Forza Armata e andato via, ho avuto le palle per andare via dopo 15 sì, anni, sì. Non riuscivo più a sopportare il sistema di corrotti, di parassiti e sono scappato via. Bravo. Da un sistema che non sono riuscito a cambiare. Bravo, mica bravo. Tutti i dipendenti pubblici sono corrotti e parassiti, però. Lui, caro, quelli che ha conosciuto il sistema, che ha conosciuto e fatto così. Ti voglio soltanto dire questo. Non sto solamente facendoci tutta l'erba un fascio, sto soltanto dicendo che la maggior parte dei parassiti statali sono tutti quanti lì per non far nulla. Beh, guardi, non sto dicendo che tra quelli che lei chiama parassiti e statali ci sono dei medici che lavorano nelle corsie degli ospedali, no, che sono pagati 1.800 euro al mese. Ci sono, c'è gente che si no sveglia. Caro Gaetano, allora, da Berlino, lasciami parlare. Parenzo, abbi pazienza, lasciami parlare. Ma dove lavoravi tu nel pubblico, scusa, Gaetano? Settore? Ero un ufficiale pilota della Marina. E dunque nell'esercito che c'era? Il fannullonismo più assoluto, il fancazzismo guarda, più assoluto, guarda, dimmi la verità. Non farmi parlare. Allora guarda, io sono andato via sono andato via, ho raggiunto il culmine, non riuscivo più ad andare avanti, quando abbiamo trascorso 5 mesi in Libia, a bordo di una nave a fare le missioni che facevamo, ed eravamo gli unici noi piloti a non lamentarci del trattamento economico vergognoso che ricevevamo, e gli unici che si lamentavano erano coloro che stavano a bordo, cioè i navali. Vabbè, ma al di là di questo, dalla mattina alla sera erano lì in pattugliamento davanti al mare Mediterraneo, davanti alla Libia, a non fare nulla, ed eravamo noi a rischiare la vita, ed erano gli unici a lamentarsi del trattamento economico. Ti posso assicurare che c'è gente che tuttora, me ne assumo la totale responsabilità, si sveglia al mattino per andare a fare il lavoro che fa da 20-30 anni, cioè gente con la terza media che è andata via dalle scuole dell'obbligo per entrare in forza armata, e che da 40 anni non fa un cazzo, nascosta nei meandri degli uffici. Sicuro, grazie Gaetano. Ciao, Alberto da Torino, buonasera Alberto. Qualcuno ci sarà sicuro. Alberto, ma non borbottare lì che non si sente una mazza. Qualcuno ci sarà allora sicuro. Dillo, Alberto da Torino. Altri invece non si può sputare su tutti. Ma no. I medici, quando tu sei andato... Ecco, adesso l'obvietà della serata. Ha detto l'obvietà della serata. Quando tu ti sei sentito male a Roma... Ha detto l'obvietà della serata, dai. Un anno fa ti sei sentito male a Roma. Ha detto l'obvietà della serata. Ha detto l'obvietà della serata, dai. Questi che chiamano... Alberto da Torino. Non ci si pensa mai, migliaia di medici. Ma non rompere i coglioni, Alberto da Torino, dai, Alberto, dai. Pagati 1.800 euro. Alberto, dimmi. Ciao, allora, solo due cose velocissime. La prima è uno sfogo. Sì, ma non devi stare con la col viva voce, Alberto, su, dai, no, amico mio, dai. Non sono col cellulare, giuro. Giuseppe. Dai, su, Alberto. Allora, Berlusconi non è più cavaliere, e sti cazzi, voglio dire, tizianetti. Cioè, allora, da un lato abbiamo, dal punto di vista... Amico mio, sei con l'auricolare o col viva voce? Due, sicuro, cioè al 100%, ormai lo riconosco a pelle proprio, a sensazione. Cellulare di merda, Giuseppe, non sono con l'auricolare. E compratene un altro, ci avrai 2 lire, no? O no? Oppure sei un poveraccio, dai, morto di fame, dai. Beh, poveretto, però. Dai, e comprati un cellulare nuovo. Perché uno, se uno chiama... Ma non è carino, è come se c'è uno con le stampelle e dici, fai schifo con quelle stampelle, ma poverino, già le stampelle, che deve fare? È diventato politicamente corretto. Ma no, ma non qua si dice così alla Alberto gente. Da Torino, dai, Alberto, dimmi, che mi vuoi dire? Morto di fame. Chi se ne frega che non è più cavaliere? Vabbè, siccome si è fatto chiamare cavaliere da un sacco di tempo, il cavaliere, è una notizia il fatto che si è autosospeso dalla federazione della straminchia dei cavalieri del lavoro italiani. No. Perché voglio dire, chi lo chiama cavaliere chi è? Sono i giornalisti o comunque... Ma no, ma è cavaliere del lavoro sul serio, poi è stato soprannominato politicamente il capo, ma è sul serio cavaliere del lavoro. Ma lo continuano a chiamare presidente quando non è più presidente. Vabbè, ma infatti è un non problema, non è il problema fondamentale dell'Italia. Non è una notizia. Vabbè, Alberto. L'ultima cosa, poi me ne vado. Dimmi. Grillo dice di essere la rete di salvezza contro, diciamo, la violenza nelle strade. Sì. Siete voi, cazzo, questa rete. Noi quando torniamo a casa, io se non ci foste voi, vi giuro, a volte tornerei a casa e prenderei a sfrangate un cucciolo di fuoco, è presente tipo Canada, no? Per la furia. Voi siete una valvola di fuoco fenomenale. Minchia, non abbandonate, continuate a picchiare duro. E razzi e sgarbi cazzo tutta la vita, ti prego. Ciao amico, ciao, ciao. Ciao cari, ciao. Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa, non inquinare la canzone, rossa, avanti popolo, alla riscossa, pensa come stai messo, bandiera rossa, trionferai, ora c'è la strofa più bella. Bandiera rossa alla trionferà. Pensa come stai combinando. Evviva il nostro Squinzi e la libertà. Bandiera rossa alla trionferà. Evviva il comunismo e la libertà. Viva Marx, viva Lenin, viva Mao Zedong. Evviva Confindustria e la libertà. Paolo Ferrero, buonasera. Buonasera. Se non ci fossi a riequilibrare qua sarebbe una casa matta. Una casa matta, caro Ferrero. Comunismo, certo. Segretario di Rifondazione Comunista, come va? Come sta? Bene. Ma io non ho capito, lei si candida per la lista Tsipras, c'è Rifondazione Comunista? Io non capisco nulla di queste cose politiche ormai, sono completamente estraneo, mi dica. No, Rifondazione Comunista sostiene la lista Tsipras. Però avete un po' litigato negli ultimi giorni, che avete fatto? No, sto girando come un pazzo per sostenerla. Abbiamo deciso che nessuno di coloro che è già stato in Parlamento si venga candidato, in modo da fare un rinnovamento complessivo dei candidati. Questo mi sembra un'ottima cosa. Ma è come se quando uno fa una cosa buona fa schifo anche questo. Non fa schifo. Dipende chi si candida. Se uno candida mezze calzette, poi è diverso. Allora è meglio quelli che già ci stanno. No, dipende sempre. Non è sempre così. Vabbè, ma diciamo che c'è ancora abbastanza gente a sinistra che si impegna nella società e quant'altro. Cioè, comunisti ci sono ancora, secondo lei? Sì, per avere degli ottimi candidati senza ricandidare quelli che sono già stati in Parlamento. No, certo, ma comunisti, secondo lei, ancora ci sono in circolazione in Italia? Sì, lei è sicuro? Ne frequento solitamente parecchi. Comunisti, ma uno dice solo io sono comunisti. No, ma dai, io non ci posso credere. Cioè, oggi uno che dice sono comunista, non è una cosa che non posso ascoltare. Uno dice sono Allora, io sono comunista. Vabbè, lei lo sappiamo, è segretario di Rifondazione Comunista, è normale ci che ci dica che è comunista. Però in genere tra la gente normale, diciamo, tra la gente lei, vabbè, lei se fa politica, uno lo dice anche un po' per così, quasi per finta, no? Per finta senza è vero il contrario, cioè io faccio politica in quanto sono comunista. In quanto comunista. Ma secondo lei tra la gente comunista non farebbe politica, non farebbe niente di far politica, cioè. Però secondo lei tra la gente, se uno va e chiede in giro, c'è qualcuno che ti dice ancora sono comunista? Perché per me è una cosa strana. Ma molti, anche molti che magari non votano in questo momento di Rifondazione Comunista, ma che si dichiarano comunisti, sì. E in questo paese, peraltro, lo ricordo, del comunismo è ottimo, perché grazie ai comunisti la gente ha avuto il sistema sanitario nazionale, il divorzio e l'aborto, se non c'era il Partito Comunista forse non passavano, e insomma tante battaglie politiche, la scuola per tutti. Ma il comunismo ha distrutto il mondo, ha distrutto il mondo. Adesso che lei è tutto felice che non c'è più il comunismo, ma io sono molto, molto peggio di come si stava 30 anni fa, quando il sindacato era forte, i comunisti forti, in Italia si stava decentemente. Non si stava peggio, adesso si sta peggio rispetto a 30 anni fa. No, dai, ma certo, io quando ho avuto 20 anni, a 20 anni già lavoravo, perché sono andato e il collocamento ti assumeva. Beh, certo, te credo, avete riempito lo stato di dipendenti pubblici come lei, peraltro, ti credo che funzionava la cosa, tutti dentro, todos caballeros. Lo Stato italiano non ha troppi dipendenti pubblici, al massimo ha dei dirigenti che costano troppo e a quelli bisogna scorciargli lo stipendio. Cosa che i comunisti hanno sempre chiesto. Comunque, guardi, Ferrero, ci sono troppi dipendenti. Lei, quando va al pronto soccorso, spero non ci debba andare. No, ma ci sono andato una volta. A lei, lei preferisce che la passino e la visitino in mezz'ora o in 7 ore? Io preferisco in mezz'ora. Veramente le assicuro che quella volta che ci sono andato, proprio c'era talmente tanta gente che siamo andati via. Comunque, è successo anche a me. Al Policlinico di Roma sono andato al pronto soccorso. Dopo 4 ore ho firmato per andarmene a casa. Io penso che invece lo Stato debba funzionare, ci servono i medici, gli insegnanti. Comunque Cottarelli vuole fare una bella sforbiciata di dipendenti pubblici. E noi faremo delle belle battaglie contro il governo Renzi. Troppo pochi, caro Ferrero, troppo pochi. Qui ci vuole una cura da cavallo, no, 85.000. Io penso che la cura da cavallo va fatta contro le banche, contro i finanzieri che si arricchiscono sul debito pubblico italiano. Quello anche, volendo. Il debito pubblico italiano non c'entra niente con i dipendenti dello Stato, c'entra col fatto che paghiamo interessi da usura delle banche schifose, dei finanzieri schifosi. Comunque, a parte le banche schifose e finanziari schifosi, forse a lei Cottarelli dà fastidio, perché potrebbe rientrare tra quelli tagliati anche lei da dipendente pubblico, Non lo so, scotta la sedia, basta con questi distacchi, con queste aspettative, pure lei basta, ruba il posto ad altra gente, a precari che vogliono essere assunti. Io sto lavorando, la informo di una cosa di cui non è informato, sto lavorando, lavoro a part time presso la regione Piemonte, assessorato all'agricoltura, facendo 18 ore la settimana, guadagno ben 600 euro al mese, e questo è lo stipendio che hanno i dipendenti pubblici, perché 1200 euro al mese. Lavoro a part time perché nell'altra parte di tempo faccio politica, rispondo alle sue domande, a questa trasmissione. Certo, ma non si potrebbe, però basta con queste part time, aspettative, perché? Cioè dipendenti pubblici, ma mica all'infinito si può. Faccio il dipendente pubblico, punto e basta. Il dipendente pubblico a part time, nelle mie 18 ore lavoro per l'assessorato, per le cose che devo fare. Vabbè, comunque Ferrero, qui Lutwak dice per esempio che in Italia bisognerebbe tagliare 750.000 dipendenti pubblici, secchi, un cretino, un imbecille. Assolutamente sì, cioè un imbecille totale. Beh, l'ha detto lei e io concordo. Comunque, no, io era una domanda, non è che lo dico. Ah, comunque, non ho capito che... L'ha avverto Ferrero che Renzi sta facendo tutte cose di sinistra. Allora, da 85 euro in più, aspetti, 85 euro in più a quelli questo che guadagnano è poco. Prima. Taglia gli F-35. Taglia gli F-35. Dice di voler tagliare, poi vedremo, vabbè, naturalmente. Okay, Napolitano no. permettendo, bisogna vedere. Terza cosa, aumenta la tassazione sulle rendite finanziarie. E lui è di sinistra, no voi che vi proclamate comunisti. Diciamola tutta. No, io penso che Renzi non sia di sinistra, che queste tre misure che ha citato sono positive e infatti io penso che sono così positive che vanno estese. Bisogna aumentare le pensioni anche ai pensionati che hanno pensioni basse, perché anche loro mangiano e quindi non si capisce perché la gente che vive con pensioni da 500 euro invece quelli non debbano avere l'aumento. Si faccia una bella patrimoniale sulle grandi ricchezze e ci sono i soldi sia per i pensionati che per i disoccupati. In più Renzi sta facendo una schifezza sul mercato del lavoro pazzesca. Beh, questa cosa di aver aumentato a 3 anni troppo il tempo poco. Dei contratti a tempo determinato senza causare vuol dire rendere i giovani di questo paese precari ma per tutti, i prossimi decenni. Ma devono essere tutti a tempo determinato i contratti, tutti quanti, da prima all'ultimo, tutti. E invece, vabbè, lei piace il lavoro come rischio, a me Vasco Rossi piace sentirlo in canzone, ma la vita penso che non si debba fare sul lavoro. Ah, Vasco quindi... Rossi solo in canzone a lei, la vita spericolata come sogno. Poi... Se uno se la sceglie, no, se uno se la sceglie va benissimo, ma non che i giovani debbano passare il loro tempo a disperarsi alla ricerca. Guardi, le parla uno garantito, però le dico una cosa. Bisognerebbe provare cosa vuol però dire. No, aspetta, a parte che io l'ho provata, però le dico un'altra cosa. Se tutti quanti domani mattina fossero tutti però, dal primo all'ultimo fossero non garantiti, ci sarebbe più lavoro per tutti, soprattutto ma per quelli che meritano. Come no, alla grandissima. Ma no, questa è una vera sciocchezza. Ma non è una sciocchezza. Un attimo solo, torniamo subito dopo la pubblicità. Pubblicità. L'ho beccata a Fiumicino con 25 kg di eroina. Questa mignottona. Il mitologico Pippo Baudo sulla Dama Bianca, questa mignottona, l'hanno beccata a Fiumicino con 24 kg di eroina. Vengono lontane le zanzare. Vabbè. È laica, è laica, la matriosca è laica e suona con maestria l'arpa. Luttuak e i dipendenti pubblici, dai. Forza, Luttuak, mitologico Luttuak. Ciao, io esco. Con l'attuale governo, che è un governo di coalizione, ha semplicemente agito per rilanciare l'economia. Come hanno fatto? Hanno tagliato le tasse. Come hanno tagliato le tasse? Perché hanno licenziato 500.000 di dipendenti pubblici. Hanno scoperto che non fa nessuna differenza. In Italia, a occhio croce, direi 750.000, ma l'azione britannica è stata fatta perché c'è un'emergenza. Lutto ha detto delle cose anche sul Berlusca, in America sarebbe già in galera. Esatto, sarebbe già in galera. Sofia, portami via, non voglio più mangiare pane e gula. Sarebbe già in galera, il signor Luttuak dice di Berlusconi. Sarebbe già in galera. Il vivaio di Tarasbulb, c'è la statua del cavallo. Arriva. C'è l'impronta della scarpa di Khrushchev. In America Berlusconi frode fiscale, minimo 5 anni di prigione nella cellula e viene arrestato dopo il processo, gli danno il tempo per mettere le cose a posto e lui sarebbe in prigione per 5 anni. Capito? Chiaro? Però questo è vero, bisogna dire la verità, al di là delle differenze tra la giustizia in Italia, gli Stati Uniti, la velocità e tutto quanto, le garanzie che evidentemente sono maggiori negli Stati Uniti e minori in Italia da un certo punto di vista rispetto all'azione di alcuni magistrati, però è la realtà, cioè in America per certi reati si finisce in cella, diciamola tutta, in cella, e non c'è niente da fare. È con noi il segretario di Rifondazione Comunista. Anzi no, prima sentiamo la Boschi a proposito di comunisti. Sì, ma io la Boschi chiedere una cosa a Ferrero. Sì, un attimo solo. La Boschi da Vespa, quando Berlusconi ricorda il momento in cui Berlusconi gli ha detto bella comunista, sentiamo. Beh, è vero che il Cavaliere una volta ha detto, ma come fa lei così bella ad essere comunista? Eh sì, è anche un po' l'unica cosa che mi ha detto perché ci siamo visti solo quella volta, però in quell'occasione però effettivamente... Sì. Ma lei è stata anche comunista al suo tempo? Non ho fatto in tempo, la mia prima tessera è del Partito Democratico, quindi io nasco democratica. Sì, allora guardi qua, guardi. Beh, Ferrero. Piero, definire la Boschi comunista è troppo anche per lei, diciamo la verità. Beh, è evidente che non è comunista. E del resto per Berlusconi sono quasi tutti comunisti, per lui anche gli Stati Uniti che metterebbero in galera saranno comunisti per lui, insomma. Mi sembra che ci abbia un po' un problema psicologico. Per cui però la dimostrazione del fatto, adesso io questa cosa cioè che qualcuno ancora oggi dica io sono comunista, divento pazzo, io non so perché anche perché sì, come se uno dicesse io sono fascista, è uguale. Cioè, beh, è un po' diverso, No, è uguale. No, non è uguale. No, è la stessa cosa, Ferrero, su, dai, è la stessa assolutamente, cosa. Assolutamente no, gli ideali di giustizia, di libertà, ma la lotta dai, perché su, ma sempre dittature sono, che dai. Ma che dittature? Perché il comunismo, il comunismo in Italia ha liberato l'Italia dal nazifascismo, ha combattuto i nazisti avanti, il comunismo in Italia, ma lasci perdere il partito comunista, il comunismo in sé è una porcheria, il comunismo in sé è una porcheria, ma una porcheria è questo liberismo schifoso che sta ammazzando la gente in giro per il mondo, la gente che crepa, i giovani senza futuro, questa è una schifezza. Il comunismo che io voglio costruire è un comunismo totalmente democratico e pienamente rispettoso. Ma non esiste, è una contraddizione in termini, ma certo che esiste. Comunismo democratico è una contraddizione in termini, ma no, ma chi è il primo primo comunismo in Italia? Chi è il primo comunista in assoluto? Oggi, a parte lei che è il segretario di Fondazione Comunista, ma il primo comunista chi è? Ma io ne conosco tantissimi. No, ma il primo, il più famoso, che ne so, il Papa. Ma il Papa non è comunista, ha una serie di buone idee sulla giustizia. Che ne so. Infatti trovo molta concordanza con Napolitano, il Papa. Napolitano. No, Napolitano è stato comunista, sicuramente, indubbiamente oggi non lo è, anzi tenderei a dire che è diventato il garante dei poteri forti di questo paese. Garante dei poteri forti. Ma il più grande comunista oggi, il più grande in quel modo lì, diciamo che ha visto cose combinate da Monti, la cui principale è stata quella di mandare in pensione la gente a 67 anni quando ci abbiamo milioni di giovani disoccupati. Mandare la gente La manderei lei in fonderia fino a 70 anni. Quelli che stanno in fonderia, no, che vuol dire? Però, e magari anche quelli che gli hanno fatto gli autoferrotranvieri. Saluto lo sciopero dei gloriosi autoferrotranvieri che oggi fanno hanno lo sciopero, ma hanno bloccato. Ma è una vergogna. No, ha fatto bene a scioperare. Ma è una vergogna. C'è gente che conosco. Ma hanno lo stipendio lo stesso, hanno lo stipendio lo stesso. Ma hanno lo stipendio lo stesso e non hanno fatto andare al lavoro un sacco di gente che si è dovuta arrabattare in mille lavoratori. Lavoratori come lei. Sì, c'erano le fasce proteste. In ogni caso, il problema è di un governo che non rinnova il contratto. Il problema è il governo che non rinnova il contratto. Basta con gli scioperi, non se ne può più con gli scioperi. Come basta con gli scioperi? Se c'è un sopruso. Gli scioperi, la gente non è che si diverte a farli, anche perché ci perde giornata di lavoro e con gli stipendi che ci sono non è una cosa magnifica. Ma il problema è che gli scioperi vengono fatti, la gente ha la forza di farli, per far rispettare i propri diritti, che un contratto di lavoro sia scaduto da 7 anni è una vergogna. Una vergogna. Vedrà che gli autoferrotranvieri non sciopero. Vabbè, picchi duro Ferrero, ma difeso duro? Io difendo lo sciopero. Oggi sono venuto a piedi per un pezzo. E poi sei andato a comprare il caviale dietro l'angolo. Sei andato a comprare i tuoi formaggini. Caviale? Io vengo con la metropolitana. Dai, linea A. Sono venuto. Ho aspettato 10 minuti in più. Abita nel quartiere chic di Roma e rompe i coglioni qui. Vado con la metropolitana. Gli autoferrotranvieri sono 7 anni che non hanno il contratto rinnovato. Non guadagnano come te 400.000 euro l'anno. E hanno diritto a scioperare all'anno. E io sono contento e io sono felice che oggi ho avuto anch'io un piccolo disagio. Pensa te, perché pensa ho preso la mia metropolitana. Io mi incazzo e basta, come tutta la gente normale. Ma perché come tu tutta sei la gente egoista normale. Ma quale? Tu sei egoista con quelli sbagliati. Ma figuriamoci. Ah, bravo, glielo dico, picchi duro. Se la dovrebbe prendere con quelli che sono la vita del problema, non ai poveracci che lo subiscono. Ma tu lo sai che Ferrero Parenzo è dalla parte di Putin sulla Crimea? Come no? È dalla parte di Putin, ma anch'io sono dalla parte di Putin. Mamma mia, Ferrero è d'accordo con Cruciani, questo è un danno enorme. Crimea è indipendente tutta la vita. Se il Kosovo è indipendente, perché la Crimea non può essere indipendente? Spiegami. Cioè, perché se il referendum è stato fatto là, non può essere fatto dall'altra parte? Referendum fatto con i carri armati. Vabbè, ma con i carri armati sì, anche. Vabbè, piccolo referendum con i carri armati. No. Dice vota in libertà. Vota. Ma se il 98% della gente, Ferrero come la pensa lei? Io penso questo, che l'Ucraina è un paese, un ponte tra l'Occidente e l'Oriente. Ma adesso non la prenda così alla lontana. Adesso non tutto si può risolvere in una battuta. E io penso che questa caratteristica debba essere mantenuta. L'errore più grave fatto dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti è stato da riconoscere il governo insediato qualche settimana fa, che come primo atto ha presentato una proposta di legge in cui toglieva la lingua russa tra le lingue ufficiali della nazione. Ora, essendo che ma sono fascisti gli ucraini? Il governo russa, ucraino è un governo fascista? Come dicono alcuni? Nel governo ucraino ci sono i nazisti. I nazisti questo, addirittura? I nazisti. Essendo che si dichiarano tali, vanno presi sul serio. Anche perché in Ucraina il nazismo non è stato un piccolo fenomeno. Hanno fatto le armate delle SS. Vabbè, ma lei è a favore di Putin sull'Ucraina? Sulla Crimea, no, diciamo la verità. Io penso che l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno sbagliato enormemente. Ed era del tutto evidente a quel punto che si innescava un meccanismo da una parte e dall'altra. Essendo che la Crimea faceva parte della Russia fino al 1954 e che è stata donata da Khrushchev all'Ucraina nel 1954 e che la stragrande maggioranza della popolazione della Crimea è russa, è abbastanza evidente che avendo fatto forzatura di quel tipo l'Unione Europea e la Lei è a favore della scelta del popolo della Crimea? Io penso, ma il popolo ha deciso. La cosa che penso io è che invece che fare le sanzioni che aumentano semplicemente i rischi di guerra e il casino, bisognerebbe aprire la trattativa, perché altrimenti noi facciamo come porcherie come la Libia. A me può immaginare quanto mi stava simpatico Gheddafi. Hanno liberato la Libia, che adesso è un massacro barbarico quotidiano, semplicemente non ne parla nessuno. La Siria se ne è parlato quando c'era la possibilità di andare a fare la guerra, adesso non ne parla nessuno. Ci sono milioni di bambini che restano in Siria giorno dopo giorno, e se ne strappano sulla Crimea tutti. Da un certo punto di vista non hai il coraggio di dirlo, è dalla parte di Putin. Sulla Crimea penso che questa situazione è la meno peggio, sicuramente nella condizione e non mi dica non mi dica che ha ragione invece sui Notav Stefano Benni, che ha dato la sua solidarietà ai giovani che stanno in galera accusati di terrorismo. Non mi dica che anche lei è a favore di quelli accusati di terrorismo in galera. No, io penso che la solidarietà umana Benni se l'ha dato, non ha fatto niente di male. Penso che il problema della Notav venga affrontato come un problema di ordine pubblico, quando invece è un problema politico. Comunque, è troppo lungo. E il fatto che ci siano processi su processi con oramai decine e decine di anni di galera che scattano per persone. Ma se uno è accusato di terrorismo, sarà accusato di terrorismo? Quello. Ma no, che terrorismo? Ma non è che la magistratura vale solo quando è contro Berlusconi, però. Terrorismo, ma per favore. No, però Ferrero, scusami. Ma scusa, allora sono dei pazzi. Allora i giudici sono pazzi se si inventano l'accusa di terrorismo. Sono megalomani. Che cosa sono questi giudici? Io penso che ci sia un uso della giustizia in forma di repressione di un movimento sociale, e quindi il tema non è più la legalità, il confronto. Se i democristiani avessero affrontato in quel modo il problema dell'Alto Adige, quelli fanno i magistrati. Sì, ho capito, e fanno i magistrati in questo modo, in cui c'è un'inchiesta dietro l'altra, un'accusa dietro l'altra. Ma ci saranno delle prove, un minimo di prove o no? Ma per favore, in Italia è la patria delle abitazioni abusive ed illegali. Per una baita costruita dal movimento notato. Ma come lascio perdere? Quello è un altro discorso. Di galera, come un altro discorso? 9 mesi di galera perché uno ha rotto i sigilli della perché quella era una costruzione abusiva. Ma se non si possono rompere i sigilli, non si possono rompere i sigilli, Ferrero. Capito, ma perché in tutta Italia nessuno dice un cazzo e invece sulla Val di Susa da 9 mesi di galera? Io non dico niente, io dico solo che se dei giudici accusano di terrorismo delle persone è perché bisogna finire con questa ipocrisia. Se gente si mette insieme per fare la rivolta contro lo Stato, va accusata di terrorismo, punto e basta. Quelli fanno la rivolta contro lo Stato. No, non è una rivolta contro lo Stato, è una cosa miracolosa che, nonostante il fatto che lo Stato si rifiuti di discutere con le persone che portano le ragioni, ma fin troppo hanno discusso. Ma che discusso? Ma lì siamo davanti a una situazione in cui quella linea ferroviaria non serve a nulla, distrugge un territorio, c'è una linea ferroviaria inutilizzata, c'è uno sperpero di risorse pubbliche, la gente pone giustamente il problema. Ma questo non c'entra nulla con il fatto che questi sono accusati di terrorismo. Mandando l'esercito, ma figuriamoci. Altro che l'esercito, bisogna mandare l'aviazione pure. Ma bombardare la Val di Susa. Ogni tanto tutti. Quando facciamo, c'è. Certo, vedo che quest'ultima affermazione c'è l'essenza, diciamo. Ma questa è una provocazione. È una provocazione. Appunto, ma solo che il problema vero è che siamo esattamente in questa situazione in cui invece che rendersi conto che una roba non si può fare, ma non si possono buttare le bombe. Le bombe, anche ma se una cosa. Bombe. Ma la cosa veramente. Lei è veramente incredibile. Lei pensa che i magistrati si inventano tutto perché lo Stato interviene? bene per guidare un'operazione dall'alto. La cosa che le sto dicendo è che la cosa meravigliosa di quel movimento è di riuscire a tenere un livello così basso. Ma ci sono dei criminali veri e propri, ci sono dei criminali, ci sono dei criminali, dei criminali incappucciati, dei criminali, io non sto dicendo, ci sono all'interno dei criminali che vanno combattuti con tutti i mezzi possibili e immaginabili. Ma per favore, questa qua è veramente d'invenzione, perché questa cosa qua di trasformare il movimento notav in una manica di delinquenti, ma chi ha detto che sono tutti così? Questo, ma scusi, sto mandando, io stesso andrò lunedì a testimoniare al processo, perché ci sono altri processi con altre decine, ma i processi sono una cosa normale, i processi sono una cosa normale. Ma certo, infatti i processi sugli evasori fiscali non si fanno, ma quello si fanno sempre, i processi sempre contro il benaltrismo, sempre benaltrismo. Scusi, no, è che semplicemente lì c'è un'azione giudiziaria che serve unicamente a giustificare la repressione, punto. Ma quale repressione? Vabbè, a presto Ferrero, a presto, arrivederci. Mi sia bene, salve. Pronto? Sì, buonasera, Dino Berlusconi? No, non c'è, cioè sono il nipote. Berlusconi anche lei però? Scusi? Si chiama Berlusconi anche lei? No. No, no, noi cerchiamo Dino Berlusconi, siamo Comitato Elettorale Forza Italia. Se lo chiama domani lo trova. Se lo chiama domani lo troviamo, no, stiamo cercando. C'è siccome... un altro Berlusconi lì a casa intanto in questo momento? C'è un altro Berlusconi? Sì, sì, c'è. Ma lo porti la... Vieni? Sì, com'è che si chiama? Lo passi subito. Sì, un altro veloce però, veloce che scadono i termini. Cosa? No, scadono i termini, veloce, cioè, scusi, scusi la fretta, ma scadono i termini. Ci passi un Berlusconi che è in casa, per cortesia. Pronto? Ma niente, vabbè, che è andato, che ha fatto? Ha abbassato. Aspetta, scadono i termini. Vabbè, il solito coglione, Parenzo, che sono accorti dallo scherzo. Ma non li sai fare gli scherzi, qui ci sono due maestri degli scherzi, qui non li sai fare. Cioè questo ha abbassato il telefono perché sei stato troppo precipitoso. Scadono i termini. È vero che scadono i termini. Ho capito, qui stanno cercando i Berlusconi in tutta Italia. Perché Berlusconi è incandidabile, non è più cavaliere. Parenzo, fai ridere. Ecco, appunto, fai ridere. Senti, Minzolini. Minzolini? Ma dai, basta Parenzo, cioè, tu sei veramente un dramma per questo paese, guarda. Un dramma per questo paese. Dopo il traffico con noi Pio e Amedeo. Eccoci. Oh, eccoci qua, ma che onore. Senti, che onore. Che sembra onore. La russa questa voce. Ma che hai fatto questa voce tu? Che ho perso la voce, sono andato a fare le marchette in tutti i programmi. Guarda, è un delirio. Ma scusi, chi è Pio? Chi è Amedeo? Parenzo, tu sai chi è Pio? Chi è Amedeo? Quello io più alto o quello più basso? Pulcino Pio. Ma che Pulcino? Parenzo, veramente, c'hanno ragione poi quando dice. Allora, per Parenzo, chi è Pio e chi è Amedeo? Pio, quello più basso, chi è? Quello più basso quello è più basso, quello più basso, brutto basso, diciamo, è un po' meno alto. Allora, un po' meno, diversamente alto. Comunque sono 1,77, non è che sono. Vabbè, 1,77 è buono. Con la sua letta, con la sua letta. Pio e Amedeo. No, Amedeo. Amedeo. E io, quello si sente con questa voce bella. Sai che hanno fatto un film per copiare Checco Zalone? Perché loro sono due pippe mentre Checco Zalone. A me piace quando fanno gli assalti, in verità. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Come si chiama il film? Facciamo subito il film, se la marchetta come noi, la facciamo veloce. Il film si chiama Amici come noi, esce domani 20 marzo domani, in tutte le sale. Domani, ragazzi, domani. Dove fare incassare un po' di quattrini a sti ragazzi o no? Cioè, sì, dai, sì, non pigliano un euro, dovete fare il secondo film e pigliare i soldi. Dai, certo, bravo, capito? Perché dopo il capito secondo... come funziona, Parenzo? Non è come noi che veniamo pagati in ogni caso. Ma non possiamo fare un film anche noi? No, che film noi? Ma siamo, non siamo in grado, dai, cioè, già non siamo in grado di fare trasmissione in televisione, facciamo i film. Però un bel film. Ci hanno chiuso la trasmissione televisione dopo una puntata e tu vuoi fare i film. Puntata che è rimasta comunque nel tempo. Dopo una puntata. Già ti immagino che tu torni a casa e te la rivedi tutte le notti. No, mai rivista, lo sai. No, una volta. Adesso mi pigli per il culo. No, ma come cazzo permette a fare? No, mi piaceva Pio, l'idea. Però, allora io dico una ma cosa. Ma Pio ha la barba o senza barba? Non ho capito ancora. Allora no, Pio. Pio, ecco, Pio a barba a filo. Una barba a filo. Amedeo la camionista. Ah, barba a filo, pure lui però con i baffetti. Sì, la faccia stravolta e sembra che ha fatto trombato per 20 ore di seguito. In realtà no, da quant'è che non fai all'amore. Da stanotte, però non stanotte. Sì, però perché fare i film porta figa, diciamo la verità. Come si dice, come si dice in genere. Delicata. No, c'è da dire che abbiamo passato solo alla taglia, perché prima del film stavamo alla 52. Adesso siamo arrivati a una bella 48, diciamo. Vabbè, non vi spaventate per questa domanda così diretta. Non è che qui siamo come sono le rubriche dove siete andati? Noi siamo andati però al Grande Fratello, tu pensa un pochettino. Cioè che fai, stai disprezzando il Grande Fratello? Ma no, stai disprezzi il Grande Fratello? Sì, guarda, fai schifo. Sì, è vero, stai disprezzando stai il Grande Fratello. Stai sputando nel piatto dove mangiare. Grande Fratello, non il Grande Fratello. Siamo andati che pure al Grande Fratello, siamo andati al Grande Fratello. Non ti metti in difficoltà. Comunque stiamo dappertutto e domenica saremo anche all'Angelus. Dovunque, ragazzi. Questo sarebbe spettacolare. Ma perché non fate gli ultras dei VIP al Papa? Ma sarebbe bellissimo, sai che noi l'abbiamo pensato, corro a favore, Francesco uno di noi, perché Papa Francesco sta simpatico. Uno di noi, Francesco. Che? In questo cazzo le problemi. Manda un attimo l'ultras dei VIP con Belen, che quello è molto no, buono. No, aspetta, voglio chiedere una cosa. Fammi fare due domande. Ma scusa, no, ma quali domande? E adesso con chi sei stato a letto? Amedeo e Pio, sono foggiani. Vabbè, i foggiani, diciamo la verità. Attento. Tra i pugliesi sono considerati così degli scarti. Diciamo. Ehi, Cruciani, qua mo ti diamo fuoco la sera. Che ho visto dove hai parcheggiato. Sono considerati meno pugliesi di tutti, diciamo dei pugliesi minori. Lo stesso Vendola a un certo punto disse: i foggiani sono quelli indolenti, non c'hanno voglia di fare niente, che si lamentano sempre. No, non è vero, non è come vero. No, no, non siamo così. Vabbè, che l'ha detto Vendola, può darsi pure sia vero, io non lo so. Vendola dice quel cazzo vuole, quindi magari l'avrà detto. No, ma l'ha detto. L'ha detto. Tu non ti riconosci in questa. No, assolutamente no. No, siamo i meno pugliesi, ma per una semplice cosa, perché stiamo al nord della Puglia e siamo una terra di mezzo. Il dialetto nostro è diverso dal barese e dall'eccese. Sì. Quindi aspetta, anche l'eccese è diverso dal barese. Cioè, il nostro è molto più. La Puglia è lunga, Giuseppe, è lunga. Dici. Sono quanti chilometri? Saranno nel 500? Sì, assai. Tu non ti finisce tantissimi. Da Foggia fino a Lecce. Cioè, da Foggia a Lecce è più lunga che da Foggia a Pescara. Ci sono tre regioni. Ma no, ma lezioni di geografia. Penso un po' da noi. Da voi. Penso come. Minchia, ragazzi. Oh. Comunque, è vero che i foggiani sono diversi dagli altri. Dai, è una razza particolare. Cioè, una razza strana. Tu lo sai che. Sai che è un foggiano doc? Arbo. Arbo. Vabbè, sì, ma tu sei. Macheo, che dice che è napoletano. Lo sai che il signor Zingarelli. Sì, lo so, noi andavamo alla Zingarelli a scuola. La mia scuola media era Lino Zingarelli. E perché parlate così male? Perché parlate così male? Non ditelo, che fate molta figura. Cioè, Zingarelli dovrebbe essere, capito, il prototipo. Parlate così male, come le bestie. Perché, I foggiani, diciamo la verità, sono un po' animaleschi rispetto agli altri. Ti spiego, perché è facile ostentare. Noi foggiani siamo così talmente tanto avanti che abbiamo fatto pure il dizionario, quindi possiamo parlare come vogliamo. Comunque adesso ci dovete raccontare tutti i dettagli, i retroscena dell'intervista a Sorrentino. Mandiamo un pezzetto, regia, se siete pronti. Sorrentino alle Iene, impresa di Pio e Amedeo, ormai su ultranota. Ed eccolo lì il nostro volone. Addirittura in anticipo. Chissà quanto è emozionato all'idea che tra pochi istanti incontrerà il grandissimo Leonardo. Ci voleva Leonardo DiCaprio per partire. Siamo stati noi, è tutto uno scherzo. Vabbè, in radio non si capisce una sega, però la realtà è che avete fregato Sorrentino, come si sa, l'avete portato in un ristorante, non c'era lui per un finto incontro con DiCaprio, ma io so delle cose, però so delle cose che in realtà quello che è andato in onda è solo una piccola parte, diciamola tutta, diciamo, qui non si può mentire. Se si viene qui qualcosa ti deve tirare fuori. Allora, spieghiamo tutto. Ci sono prima di tutto un paio di telefonate che non abbiamo messo per esigenze di montaggio. Dove lui ci ha dato un appuntamento e non si è presentato. Ci vediamo alle 5 in una via e lui non si è presentato e ci ha bucati clamorosamente. Qui ci ha fatto incazzare per la prima volta. Sì. Perché non è che è stato uno scherzo così partito per pura goliardia. No, noi eravamo veramente incazzati. Quindi gliel'abbiamo fatto per vendicarci. Perché l'intervista ci ha fatto arrivare fino a Hollywood per fare l'intervista a lui. E c'aveva l'esclusiva con Fazio, quello, per quello non voleva. No, ma il motivo del nostro incontro era ben altro. Cioè, noi avevamo proposto un'idea a Sorrentino. Abbiamo detto: guarda, noi veniamo, tu vinci sicuro. Veniamo lì con la locandina del nostro film. E tu devi dire semplicemente sul palco, quando dici thank you Maradona, thank you Sasaki, ha ringraziato lui, devi dire Mazza e ci viene. Tanto quest'anno lo fai tu a noi, l'anno prossimo. Ma è possibile che Sorrentino faceva la pubblicità? Ma noi gliel'abbiamo proposto. Era uno scambio di favore, perché l'anno prossimo, siccome tocca a noi andare a prendere la statuetta, capito? Magari l'anno prossimo c'era un po' di pubblicità. Su, ma non ci sarebbe stato comunque. Ma in Italia ha fatto il fenomeno. E beh, lì quando gli ha proposto, la realtà è, al di là di questo, vi ha detto delle altre cose che non avete mandato in onda, diciamola tutta. Allora, non abbiamo mandato. Cioè, non abbiamo mandato. Il servizio durava 7 minuti. Ci ha insultato pesantemente. Ha detto a fanguse due e merda. Così ha detto. Ha detto anche. Voi quanti anni avete? 30 anni, Paolo. Ah, e non siete parecchio intelligenti, però, mi sa, eh? Cioè, in tono minaccioso, che io lo riconosco. Come non siete parecchio? Ha detto siete dei coglioni, no? Non siete parecchio intelligenti. No, non siete parecchio intelligenti per fare questo mestiere. Cioè, l'idea vi siete messi contro a me, e adesso io c'è una minaccia velata. Sì, anche perché noi abbiamo la stessa casa di produzione che Meduse. Ma quello che cazzo ve ne frega voi? Sì, a noi infatti non ce ne fregava niente. Ma poi va detto pure un'altra frase, un'altra frasetta. Vabbè, ragazzi, qui bisogna tirare fuori le cose, dai. Vabbè, che me l'ha detto? Ci ha detto due volte che eravamo dei fascisti. Senza ma forse perché stavamo vestiti di nero. Non lo so, forse ha visto la questo l'ha fatto, quello si è visto. Ah, il dito in medio, sì, sì, quello. Sì, ho detto fascisti. Fascisti pure. Fasci, noto perché è un programma fascista. È perché siete in combutta media, siete le Iene, è tutto magna. Venduti pure voi. Vi hanno imposto di non mettere questa cosa nella Iene. Abbiamo deciso noi. Cioè voi avete deciso di non mettere per non sputtanarlo. No, non è sputtanarlo, è semplicemente perché era talmente tanto triste quello che ci aveva detto, che non faceva né ridere né piangere, quindi non portava niente, era fuffa, era proprio fuffa. Invece il montaggio così era preciso. Secondo te, Parenzo, io l'avrei messa una cosa del genere o no? Tu l'avresti messa in loop, come si dice tecnicamente. Se lo metteva come suoneria al messaggio. Ma io voglio sentire gli ultras dei VIP con la signora Belen. Un attimo, ma sai perché? Adesso c'è un attimo di pausa, 3-4 minuti di pausa. Tira fuori questa cosa che è meravigliosa. Ma non lo so se ce l'abbiamo, adesso non l'abbiamo. Perché sei fissato con questa cosa? Perché è divertente. Vabbè, andate al cinema domani, farò una marchetta, io mi sono simpatici questi due. Pia Medeo qui alla Zanzara, 800 24 00 24. Fra poi ricominciamo con gli ascoltatori, che mi sono dato già di coglioni con questi due. Perfetto. A voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri. Working all day and the sun don't shine, trying to get by, and I'm just killing time. I feel the rain fall the whole night through, far away from you, California blue. Mario Platero ci ha dedicato questo splendido o tragico California Blue. Facciamo special guest alla Zanzara insieme a Pio e Amedeo. Beh sì, insieme a Pio e Amedeo. Adesso sei andato, Mario. Il compagno Platero, mitico corrispondente del Sole 24 Ore da New York, ma più noto come cantante e musico nelle zone di New York, come intrattenitore. Fai karaoke. Fai piano bar a New York. Scrive per il Sole, veramente corrispondente. Sì, vuol dire che non lo pagano abbastanza e arrotonda a fare il piano bar a New York. Ragazzi, state messi male pure voi qua, però. La crisi mi ha colpito. Allora, dove andiamo? Sì, fai sentire gli ultra. Oddio, che palle con sta storia. Roba che vale invece la pena mi devono fare. Raccontare un'altra cosa, altri retroscena. Sono stati da Foggiani, tre Foggiani a Soci con Luxuria. Sì, che sì. È successo là nei bar di Soci? Diciamo la verità, cosa è successo? Che succede? Amici miei, cosa è successo? Luxuria ci ha portati in un locale gay. Poi noi ovviamente ce ne siamo andati. Lei ha rimorchiato o no alla fine? Secondo me ha rimorchiato, sì. Non ce l'ha detto, però secondo me ha rimorchiato. Ha detto di stavi dicendo secondo di me sì. Un po' sì, perché l'abbiamo lasciato in reggiseno, presa benissimo, con tre vodka sulle spalle, capito? Cioè, si è ubriacata in un locale gay? Ubriaca, con tre cicchetti di vodka, non so se si ubriaca lì con tre cicchetti di vodka, non credo. E ha rimorchiato? L'abbiamo lasciato con il reggiseno attorniato da due, ma non so se è come è finita la serata, perché poi noi ce ne siamo andati, siamo andati al nitro. Sì, si vede nel servizio. Sì, no, ma poi come è finita dopo? Non ce l'ha voluto dire. Com'è finita? Ma sono andato a prelevare lì. Sta buffonato. Dai pure voi, ditele che era stata buffonata. La prima volta l'hanno fermato. L'hanno tenuto due ore a farle delle domande. Vabbè, ma dove dormivate? Nello stesso albergo? Sì. Stessa stanza? Sì. Stessa stanza. Poi abbiamo cambiato una volta. Stessa stanza. Una notte nella stessa stanza. Che servizio è quello? Letti? No, nel lettone a piedi. Come divisi? Lei dormiva nel lettone e noi avevamo il divanetto. Infatti. Nel lettone di Putin. Ah, ti fa schifo? Sei omofobo? No, sei un omofobo. no, sei omofobo. No, nel senso per hai fatto lei nel letto accanto, no, così per farla stare più comoda, perché comunque sembra una signora. Bravo, bravo. Ma veramente cioè, un uomo. C'è da ridere, è una signora. No, una signora. Nella mia visione delle cose è una signora. Pur secondo me è una signora. E che signora, no, ragazzi? È una signora con due coglioni cubi, cioè si può dire qualcosa. Cioè, in che senso, scusa? Vladi, sì, Vladi, quello sicuro. Infatti la stessa cosa ha detto lei. Vladi c'ha due coglioni. No, io glielo ho pure detto, guarda. Quello, guarda, come ha affrontato il tutto Vladimiro, veramente tanto di cappello. Caro Giuseppe. Senti, ma due domande di Prammatica da Zanzara a Pio Medeo, che escono domani con un film meraviglioso, straordinario, sulle orme di Checco Zalone, che ha fatto un sacco di soldi. Checco Zalone, loro invece è venuta la presentazione. Pure. No, tu, dimmi se è venuta la presentazione. Ma fa il tifo per voi, Zalone, o no? C'è un pezzo, abbiamo un pezzo con lui nel nostro film, tu pensa un po'. Calse che l'ha obbligato. Non so un cazzo di questo film, io non te l'ho detto. Non ho letto nulla, non so nulla. C'è un pezzo che si chiama Fuggi da Foggia. Cioè l'ha obbligato, Balsecchi, il produttore l'ha obbligato a farlo, non voleva. L'ha obbligato a farlo, vabbè. Sto per una cosa, Fuggi da Foggia. Ma voi siete mandati a prostitute? Noi a prostitute? Che cazzo, no, il prostituto è no. Mamma! Ma ci sarebbe? Ma sta scherzando. Ma non sto scherzando. Sì, no. Sì, ma confessalo. Qui bisogna utilizzare sempre la trasparenza assoluta. No, noi siamo a favore della legalizzazione della prostituzione qua. Assolutamente sì. D'accordo. Cioè, veramente. Più bordelli per tutti, dici più assolutamente tutti. Sì. Pensa, cioè, in Puglia, piena di bordelli. Pensa alla ma gente. Ci stanno. Stanno che sono occulti. Io so che vicino a Foggia c'è una cosa, perché ci sono andato. No, ci sono andato. No, però so che c'è una cosa abbastanza occulta, ci sta, in Italia è pieno di bordelli, una cosa, ragazzi, occulta, una cosa non giusto, occulta non è giusto, non chiamate, è giusto. Chiamate l'amico di Parenzo là, quello della Lega, un attimo, che sì, lo devo cucinare. Ci intanto noi sì certo, vista, certo, vi faccio parlare subito, intanto però parlate, aspetta, in stretto dialetto. Il matrimonio, certo, di Lara Comi sulle onde di Radio 24, stiamo cercando un fidanzato per l'europarlamentare più bella di Forza Italia, Lara Comi. Perché io devo mettere la testa a posto. Adesso c'è Cruciani che c'ha una missione di trovarmi il fidanzato a questo punto. Sì, perché tutti single siete diventati all'improvviso, tutti single. Non è vero. Tutti single. Non è vero. Vabbè, lei ce la come, da quanto è single? Da 4 anni. Ogni giorno sul mio palco recita lo stesso show. Di Pupa Logo, cristallo e vino, dolce vita però. Spesso stile Peppino e Totò. Le mie ex dicono che sono bastardo, bugiardo, ma io gioco d'azzardo. La mia vita è un casino. Ogni sera nel night di Kim Mauri, con i ragazzi della banda cospirando, manco si trattasse di un... Allora sentiamo questo, va. Roberto, consigliere del Partito Democratico, 30 anni. Sentiamo come si voi la conoscete, Lara Comi? Quella del PD, quella voi non sapete, non un cazzo, quella ma voi di politica non sapete. Ha fatto il calendario. Ma chi avete votato? Ma non ha fatto nessun calendario. Grande Fratello. No. E allora non la conosciamo. No, niente. Allora. Però potrebbe farlo, potrebbe farlo. Ma voi siete berlusconiani? Ma noi siamo ci paga Berlusconi. Certo. E allora siete berlusconiani. Noi siamo per la Pagnotta, mo lavoriamo per Berlusconi. Se ci chiamano alla Rai, a Rai 3, diventiamo di sinistra. Se ci chiamano a Tele Lombardia, diventiamo però di Renzi sinistra. Vi piace, dai, Renzi vi piace. Ma Renzi a me è giovane. Matteo è giovane. Si dice giovane. Così. È giovane. Cioè lo votereste, Renzi? Ma sì. Ma che ne so, può darsi. A chi devi votare? E che ne so io? Vendola. Io ho perso so la scheda elettorale da 15 anni, da quando mi è arrivata. L'anno dopo. Dicono tutti così. Dicono tutti. Gli attori dicono tutti così. Attori, artisti, dicono tutti così. Non ci possiamo pronunciare, noi dobbiamo lavorare, Giuseppe. Ci vuoi far segare, neanche abbiamo cominciato. Non ci far pronunciare sulla politica. Allora, il fidanzato di Lara Comi questa sera numero uno che si vuole esporre si chiama Roberto, 30 anni. Giudicate pure voi questi qua se hanno diritto e se hanno qualche possibilità con questa qua. Ciao Lara, sono Roberto Pinto, chiamo da un paese in provincia di Brindisi, Sisternino, di cui sono anche consigliere comunale. Purtroppo del PD, però adesso, visto che siamo in periodi di larga intesa, ho voluto comunque lanciare la mia candidatura. Naturalmente ti trovo una bellissima ragazza, anche simpatica, e niente, nella vita, oltre a fare consigliere, sto per aprire un agriturismo nella masseria di mia nonna e mi sto laureando in giurisprudenza. Abbiamo la stessa età, siamo tutti e due dell'84, abbiamo la passione per la politica, insomma mi farebbe piacere scambiare due chiacchiere con te. Ma io vi taglierei i coglioni se fossi. Mamma mia, veramente. Sì, dove la porti? La masseria, la Comi, ma la Comi è figa. La Comi è veramente buona, comunque. Ma Cisternino fanno pure la carne buona. Di un pezzo di carne. Che mi guardi così. No, per dire. Quante possibilità questo? 0,2, quello è del nord. Devi venire a Brindisi, ci vuole l'allegria. E poi la porti nella masseria. Ma per cortesia, dai. Vi proponevi una 127, era meglio, guarda. Un altro, mandatemi un altro. Chi è? Uno Salvatore, va, impiegato di sua 31 anni, questo già inizia male, impiegato, questo non... imprenditori, gente con i quattrini, non impiegati, cioè gente con i quattrini, quello è europarlamentare, 31 anni, dai, su. Ciao, sono Salvatore, ho 31 anni, chiamo da Bergamo, sono un impiegato, ma sono della provincia di Napoli. Mi piace Lara perché è una tipa molto molto affascinante, bellissima, ed è il mio sogno, come ho scritto nella mail, perché è una donna che comunque tutti vorrebbero, e soprattutto io. Niente, credo che con questo abbia detto tutto. È la donna più bella che c'è. Vabbè, ma siamo alla banalità proprio più a assoluto. Parte che ha detto sono un impiegato, sono di Napoli, ma sono un impiegato. Che significa? No, vuol dire che è strano che un napoletano abbia un lavoro, ragazzi. Questo quello sembra voler dire, no? Vabbè, chiamatemi quello che sapete, va. Marco da Foggia, ecco Marco da Foggia. No, incredibile. Chiamo Marco da Foggia, Marco. Questo va bene, secondo me. Marco. Pronto? Sì, conosci Pia. Marco, tutto a posto, facciamo un po' di Radio Foggia. Ma che fai, Marco? Stai cercando, ma subito un casino. Che te mangi? Sono due garg. Di dove è il Gargano? Cagnano Varano. Ma questo non è italiano, ma questo qua è un dialetto. È un dialetto del albanese. Ma che è sta roba? Questa è diversa anche dal nostro. Foggia capitale, ma Foggia quale capitale? Ma quale capitale? Foggia capitale. Insieme del talento, Cruciano, tu a Foggia veni. Ah, veni, che si ha detto che devi venire a Foggia. Sì, si capisce più o meno, si capisce. Noi sforniamo talenti a Foggia, Cruciani. Ma siamo un popolo comici sicuro. Ma è vero che non avete voglia di fare un cazzo, che siete indolenti, che vi lamentate sempre, come si dice, è vero o no? E basta che ci pagano, Cruciano. Ma questo già ha confermato tutto. Ma sì, una basta. Ma facciamo tutto. Tanto per alzare il livello di Foggia. Questi e tu basta che ci fanno un mazzo. No, non è vero. Aspetta, fermi tutti. Chi è questo? Ha abbassato, che ha fatto? Si sta ascoltando questo maledetto. Vabbè, Marco, allora che volevi dire? Al di là della Foggia, cose, che volevi dire? No, non è vero, insomma, lavoriamo come tutti gli altri, studiamo sodo, lavoriamo. Ha cambiato accento, è diventato milanese adesso. È impazzito. Vabbè, Marco, che volevi dire al di là di questo? Qualche cosa? No, al di là di questo volevo dire, insomma, francamente lì la proposta di mettere il nome di Berlusconi sulla scheda, sì, nonostante sia incandidabile e vergognoso, insomma, ecco, voglio dire. Ah, sei anti-berlusconiano tu, sei anti-berlusconiano. Ma io sono comunista, io sono un foggiano comunista. Ma che esistono ancora i comunisti a Foggia? Comunisti. Alla grande. Rimasti qua. Come gli eroinomani. C'è una fucina di comunisti. Vabbè, Marco, io ho proposto una cosa eccezionale che dovrebbe, l'altro giorno l'ho detto pure a Sallusti. Non può essere più ricandidato. Voi state zitti, non vi esponete. Non può essere più ricandidato Berlusconi. Mettetene 5 Berlusconi: Eleonora Berlusconi, Barbara Berlusconi. Tutti i candidati con nome Berlusconi in 5 circoscrizioni d'Italia. Una proposta meravigliosa, una proposta mia, a me che me ne frega. Vabbè, però poi si prendono per il culo all'estero. Dai, la Merkel ci ride dietro. Insomma, non siamo un paese degno di, insomma, obiettivamente. Vabbè, se fosse quello il problema, già siamo ridicoli per altre cose, non per questo, dai. Ho capito, però insomma non è che in Sud America i tempi di facevano quelle cose lì. Cioè, tu vai a mettere il nome di uno che poi non può essere eletto, ma secondo voi, dai, obiettivamente. Che ma no, uno, deve essere il nome di uno dei parenti. Parenzo, spiegaglielo tu. Il lodo Cruciani prevede quello, esatto, di utilizzare. Ma guarda che passerà, già oggi qualcuno ha detto Marina e Barbara in lista. Guarda, io do un consiglio a tutti i consiglieri, scusate il gioco di parole, di Berlusconi. Volete Berlusconi in lista? Allora, mettete 5 Berlusconi diversi, Luna Berlusconi, Eleonora Berlusconi, Luigi Berlusconi, tutti in lista, che fanno una pernacchia e i magistrati dicono: non volete farci candidare Berlusconi? Noi ci candidiamo lo stesso in 5, non diciamo una parola, non facciamo campagna elettorale e prendiamo noi i voti in nome di mio padre. E poi dopo un secondo ve ne andate al Parlamento Europeo. Questa è la grande strategia. Non queste cose, il TAR, la candidatura, forse sì, forse no. Dai, su. Chi c'è qua? Parenzo? Che volevi aggiungere? Su questo? Sì. Niente. Hai già dato la linea tu. Nazareno da Roma, dai, Nazareno. Ma non ci risponde l'amico nostro là, Nazareno. Pronto? Nazareno, dimmi. Sono io, di cui ti ho fornito io, il numero, sì, diciamo. Sì. Ah. No, quale dici tu? No, ti ho mandato un messaggino con il numero di una persona. No, non è quello, no, domani, non c'è tempo stasera. Nazareno, ci sono questi due rompicoglioni qua. Nazareno, dai. Ma mandagli Ultras un attimo, però, dai, elimina sti due, manda le loro clip che facciamo prima, anziché tenerli lì in studio, che sono inutili. Nazareno. Scusa, ma non è Nazareno. Manda una clip di questi due, basta, dai. Cioè, manda un promo, dice. Ma sì, stai a parlare in foggiano, non si capisce niente, la radio nazionale. Ma tu ti immagini Squinzi che in questo momento in macchina sta tornando a casa, ci vediamo cosa fa la mia radio. E senti questi che parlano tutto foggiano, tutto così. Il signore dall'altra parte è Veneto? Sì, sì, è certo. Veneto, è Veneto. Sì, certo. Bene. Ma che vuoi fare? No, ma c'ho già la targa della sua macchina. Non devi venire a Milano, bello. Per confermare. Giusto per confermare. Veneto, nazione. Nazareno da Roma, Nazareno. Da uno che sia Pokémon, sì, Nazareno. Dimmi. Mi senti? Dimmi, Nazareno, parla. Che cos'è? Apri la porta. Ecco, no, volevo dire questo. Siete due simpaticissimi ragazzi. Vabbè. Però siete fuori strada. Cioè, in che senso, scusi? Allora, in Italia attualmente esistono, sì, grosso modo, 3 milioni di comunisti. Bravo, sì, non sono d'accordo, è vero. Ma dove stanno i comunisti? Ma solo tu li conosci i comunisti? Smettila, sì, Nazareno, non esistono più comunisti. No, dai. Ci sono questi due che fanno finta di essere comunisti, almeno... qua non lo dicono perché lavorano con Berlusconi, ma sono comunisti loro. Certo. Questi solo perché abbiamo la pashmina, Crucià. No, ma siete comunisti, è chiaro che siete comunisti, basta vedervi in faccia, siete comunisti. È evidente, è lampante. Solo che lavorate con Berlusconi, per la Medusa e per Mediaset, non lo volete dire. Non avete il coraggio. Noi siamo alla pagnotta, Cruciani. Nazareno, dimmi, dai. Allora, dove stanno questi comunisti? Io non li vedo più. Ci sono circa 3 milioni di comunisti. Quindi voi siete già fuori strada. Ma dove stanno questi 3 milioni di comunisti? Dove stanno? Tra questi 3 milioni di comunisti, sì, ci sono circa... diciamo un quarto di trotskisti. Lei sta facendo lui. Vi posso assicurare, sì, dalla mia esperienza personale, sì, che ne scopro almeno 5 o 6 a settimana. 5 o 6 a settimana? Troschisti. Scusa, i troschisti sono i fan dei New Trolls, non... No, sono quelli di Uomini e Donne. Ah, i troschisti. I troschisti. Ma è una cosa seria, ve la assicuro. Siete ampiamente fuori strada. Va bene, Nazareno, qui la parola troschisti ha fatto venire una sorta di c'è stata una reazione da parte troppo, di Pia Medeo che hanno pensato ai tronisti, no? Chi è? Sì, Uomini e Donne, quelli che fanno l'esterno. Sarebbe una figata, su Rai 3, Uomini e Donne con i troschisti, bellissimo. Pio Amedeo, grazie! Ciao, grazie a te, grazie a te, grazie a te. Un abbraccio, tornate. Ciao, quando vuoi. Amici miei, fatevi i cazzi vostri. Ciao. Ve lo dico a voi due, d'amico, fatevi i cazzi vostri. Sì, ho capito, caro Razzi, però adesso... la maglietta di Razzi devo regalare prima o poi a Pio Amedeo qui. La maglietta di Razzi, amici miei, fatevi i cazzi vostri. È straordinario, un pezzo ormai mitico. Chi c'è? Abbiamo chiuso quasi? Basta, chi c'è? Anita, tutto, provincia. Dai. Come chiudi tutto? Io giuro a Claire, chiudi e andiamo via. Basta. Dici stasera, manco. Ma cosa puoi sentire ormai? Basta, Anita, dopo Pia Medeo è tutto finito. Dici. Bruno, Gastone, ma chi è tutta sta gente? Anita, provincia di Venezia. Mandate a casa, avete una famiglia alle 20:50, mangiate la minestrina al burro. Su. Anita, provincia di Venezia. Pronto. E allora? Pronto? Che c'è? Che c'è, amica mia? Buonasera, niente, avevo sentito la telefonata di quell'ex statale. Sì, gli statali. Sì, se ne licenziassimo un po' non sarebbe male, dai, licenziare un po' di statali. Sì, infatti, diciamo che relativamente sono d'accordo, cerchiamo per confermare solo in parte per comunque il telespettatore. Cioè, io ad esempio sono un insegnante da 25 anni e posso assicurare che non lavorare è molto difficile nella scuola. Si può lavorare bene, male, bene. Ma non si può sicuramente non essere dei fannulloni, ha capito? Vabbè. Quindi dipende molto anche dal mestiere che si fa. Non c'è dubbio, Anita, però lei con questa telefonata finale alle 20:51 mi ha fatto un po' mosciare, non so perché, così mi è calata la tensione. Ci sentiamo domani, 18:30. Salute. Ciao, a domani. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.